Dai, va bene, incominciamo. Oggi si impareranno diverse cose, perché Charlie Bernau ci presenterà i risultati, non ancora conclusi, ma già significativi, di una ricerca che sta svolgendo da diversi anni sull'addestramento militare delle forze armate e dei corpi di polizia. Una ricerca etnografica, di analisi istituzionale, che è molto utile per capire cosa sta sotto i tanti episodi di violenza o di tortura conclamata di cui ogni tanto capita di leggere sui giornali. Quindi una ricerca intesa a smontare in maniera documentata e puntuale la spiegazione di Comodo relativa alle mele marce, agli abusi, agli eccessi e quant'altre giustificazioni occasionali vengono date di volta in volta a quella che è una prassi che si radica e trova spiegazione in ben determinati meccanismi di funzionamento e ancor più di formazione delle forze in divisa, che siano d'uso interno o esterno. E una delle cose importanti che risulterà da questa analisi è, tra l'altro, come questa distinzione sia oramai superata dentro una duplice convergenza del militare e del poliziesco. Io dirò soltanto alcune parole introduttive e più che altro a lato dell'argomento, perché quanto ci racconterà Charlie basterà. Ecco, prima di far qualche accenno, voglio ricordare che questo incontro deriva da una sollecitazione di Giancarlo, e una delle tante cose che hanno dovuto aspettare la fine del primo o del secondo lockdown, quindi una delle tante cose rinviate, e una di quelle occasioni che però riempiono la vita di questo posto. Alcune di queste occasioni sono costruite, ricercate intenzionalmente, altre derivano invece da felici incontri. Ieri abbiamo avuto modo di parlare lungamente, però in precedenza non ci si era mai incontrati. Avevamo, a parte Giancarlo, un altro amico in comune, però era mancato un rapporto diretto, anche perché Charlie lavora all'Università di Catanzaro, quindi non proprio dietro l'angolo. Per cui questo incontro si inserisce in una certa modalità di fare le cose qui, che bene o male pare funzionare. Ecco, quello che voglio dire a introduzione, ripeto, non è dentro l'argomento, piuttosto è di contorno e apre forse a certe interazioni di discorso. Parto da Nanterre, maggio 68, dai muri di Nanterre, e da uno slogan che si poteva leggere su quei muri in quei giorni, e lo slogan è famoso, però lo voglio ricordare, e recita: di un uomo si può farne un poliziotto, un paracadutista, perché non se ne potrebbe fare un uomo? Ecco, in questo slogan, pure anche ingenuo, perché sembra alludere alla possibilità di un altro uso della socializzazione, dei percorsi formativi, però risalta la carica di umanità, questa rottura possibile, questa possibile irruzione dell'umano dentro i meccanismi formalizzati, ossificati e statualmente determinati e violenti, perché dire paracadutista nella Francia del 68 voleva dire richiamare immediatamente la guerra d'Algeria, l'impiego di paracadutisti nelle formazioni speciali che combatterono la battaglia di Algeri, e voleva dire anche richiamare una figura come Jacques Massou, che non solo apparteneva a quel passato ancora vicino, ma era un pezzo del presente, perché si ricorda forse il famoso incontro tra De Gaulle e Massou a Baden-Baden per parlare dell'eventualità di un intervento armato a fronte del movimento del maggio 68, così come si ricorda la dichiarazione dello stesso Massou che se gli avessero dato due divisioni De Gaulle avrebbe potuto far colazione sui boulevard. Ecco, questa possibilità si è chiusa e alla risposta è stata, e alla domanda è stata data un'altra risposta, cioè non perché non se ne potrebbe fare un uomo, ma perché non se ne potrebbe fare una macchina di guerra ancora più decisa e sofisticata e un torturatore professionista. Ecco, è uno slogan, è una scritta sul muro, però contiene in cifra molte delle questioni di cui parleremo oggi. Un altro lato, sempre marginale, però comunque significativo, andiamo a vedere un po' quest'Università di Nanterre. Allora vado sul sito ufficiale dell'università e proprio nella pagina d'apertura e nella presentazione, quindi istituzionale, di questa prestigiosa università si legge: teatro di una storia ricca di avvenimenti che hanno marcato il mondo universitario alla fine degli anni 60. Quali fossero per questi avvenimenti non si trova scritto da nessun'altra parte nel sito. È una università importante in cui sono successe cose importanti, ma quali cose non è detto. Viceversa, se si va su un sito internazionale che dà conto dei poli dell'eccellenza accademica a livello mondiale, The World University Rankings, si legge invece che Nanterre became infamous a causa di essere stato il centro della ribellione degli studenti nel 1968. Infamous significa malfamata, tristemente nota. E infatti poi si ricorda come il nickname, il soprannome di Nanterre fosse Nanterre la folle o Nanterre la rouge, tra parentesi, referring to communism. Ecco, questi due poli hanno direttamente, da una parte il nulla discorsivo, dall'altro un discorso molto preciso, hanno a che fare con quanto si diceva ieri di questa sociologia universitaria, accademica, che è un disastro. È la sociologia della società che non vuol conoscere se stessa, che non vuole ricordare la sua storia, che vuole andare avanti finché riesce, e siccome non è molto facile riuscirci semplicemente riempiendo i sacchetti di carta di chiacchiere, il controllo delle popolazioni, dei territori dentro contesti che vanno facendosi sempre più difficili risalta come elemento fondamentali. Ancora l'ultima cosa su Nanterre: l'università è stata famosa non solo per quanto vi è successo nel 68, ma perché era effettivamente una novità, era il primo campus di modello statunitense, una nuova forma di università e di vita associata degli studenti, eccetera, eccetera, eccetera. E molto meno noto è il fatto che a Nanterre, una decina d'anni prima della formazione dell'università, si fosse formata quella che forse era la più grande bidonville di Francia. E io personalmente, fino a poco tempo fa, quando il curatore di un libro che è infine uscito anche in Italia, un'opera molto importante, di Abdelmalek Sayad, il grande sociologo algerino della doppia presenza, eccetera. Ecco, non sapevo che a Nanterre ci fosse questa grande bidonville autocostruita. Ecco, il discorso è importante sia per quell'effetto di sparizione di pezzi interi della realtà sociale di certe pratiche, sia perché nella sua analisi Sayad spiega come l'intero processo migratorio e dentro questo processo migratorio la stessa costruzione di questa bidonville ha origine e fa parte di una struttura militar-coloniale dei territori occupati dalla Francia. Quindi quello che poi diventerà una dottrina di impiego strategico delle forze armate, una scuola di formazione, perché tutti ricordano giustamente la scuola delle Americhe come centro di formazione dei torturatori da parte degli esperti statunitensi. Molto meno nota è invece la funzione che ha avuto la Francia nella formazione degli squadroni della morte in Sud America, nell'inaugurazione di un corso di violenza istituzionale che prima applicato nel Terzo Mondo si è poi successivamente riversato anche all'interno dei territori metropolitani. Quindi sono una serie di fili. È chiaro che poi la ricerca di Charlie è molto specifica, molto precisa, molto documentata, ma sta dentro questa rete di implicazioni. La penultima cosa che voglio accennare è che questa ricerca a noi serve perché muove dall'interno, da un'analisi precisa di determinati meccanismi di funzionamento e dà corpo a una serie di altre intuizioni, di abbozzi di analisi, certamente di livello inferiore a quelli di Charlie, però comunque di tentativi di aggiornare la visione sul militariato, sui nessi tra guerra interna e guerra esterna, sull'indistinzione crescente tra i due fronti, sulla militarizzazione della polizia in un doppio movimento, per cui i militari sempre più svolgono funzioni di polizia e la polizia sempre più è dotata di strumenti e armi di tipo militare e ha un modo d'approccio ai movimenti delle popolazioni, alle questioni d'ordine pubblico, all'integrazione tra Stato, non Stato, diversi attori della società, eccetera, che sostanzialmente ne fanno non un corpo unico, ma un corpo multifunzionale. Questa è un po' la risultante complessiva. Dentro delle dottrine strategiche di recente introduzione che qualche anno fa si sono condensate nel rapporto NATO Urban Operation 2020, che appunto abbiamo avuto modo di studiarci un po'. Ecco, la ricerca di Charlie tratta dello stesso campo di questioni con uno sguardo più ravvicinato, più proprio interno ai meccanismi dell'istituzione e alle conseguenze sugli uomini che la partecipazione a queste istituzioni, a questi meccanismi di formazione produce. L'ultimissima cosa che voglio dire è relativa alla presenza degli italiani in Afghanistan. L'incontro di oggi si integra bene con un incontro di qualche giorno fa in cui Daniele Ratti parlò delle missioni militari in corso, incentrando l'attenzione soprattutto sulla zona del Sahel. Rispetto alla missione militare italiana in Afghanistan, si è tanto sottolineato il fatto che gli italiani erano lì ad aiutare le popolazioni, a fornire un ausilio alla ricostruzione, e sempre la solita zuppa, no? Alla fine italiani brava gente, siamo lì non per sparare ma per dare una mano. Ecco, questo aiuto in realtà si svolgeva all'interno di un ben preciso apparato che ha un nome, una sigla PRT, Provincial Reconstruction Teams, che sono delle squadre che agiscono a livello provinciale, formate dall'esercito americano, con grosso apporto delle scienze sociali, perché gli ultimi anni hanno visto una nuova e pesante implicazione delle scienze umane e sociali nell'apparato militare. In sostanza, di cosa si tratta di fare? Si tratta di andare a contattare i capi villaggio e dirgli: guarda, ti costruiamo il pozzo, tu dici chi è che va su per quel sentiero. Ecco, i compagni che hanno scritto questo pezzo fanno notare come per pagare questi servizi di delazione lo Stato italiano ha tirato fuori 58 milioni di euro. Siccome l'insieme della presenza militare italiana in Afghanistan è costata all'incirca 10 miliardi di euro nei 20 anni in cui ci siamo stati, si tratta quindi dello 0,058% dell'esborso. Ecco, a Giuda detterò qualcosina di più. Basta. Ci sono prove credibili che i soldati dell'elite australiani abbiano ucciso illegalmente 39 persone durante la guerra in Afghanistan. Con queste parole viene presentato un report di ricerca che era molto atteso e viene reso pubblico nel novembre dell'anno scorso, nel novembre del 2020, da parte dell'Australian Defence Force. Il report è riferito ad una ricerca condotta dal generale Justice Paul Brereton, durata 4 anni, che si è basata su oltre 400 interviste a testimoni e soldati. Brereton ha dichiarato che 19 soldati delle forze speciali della DF sarebbero stati indagati dalla polizia riguardo a crimini commessi nel periodo 2009-2013. E la DF riferisce anche di una incontrollata cultura guerriera presente tra alcuni soldati delle forze speciali, i quali hanno commesso tutta una serie di atti criminali, ovviamente, come sempre accade in questi casi, soprattutto omicidi e torture, nei confronti di prigionieri, agricoltori, civili, bambini. Rispetto a questo scandalo, non ci sono foto in internet, non sono state pubblicate foto. L'unica è questa, che è un po' simbolica, non so se qualcuno di voi l'aveva vista. È uno di questi soldati, di questi 19 soldati dei corpi speciali dell'ADF, che beve birra dalla protesi di un afghano ucciso, appena ucciso, dopo essere stato torturato. Gli episodi denunciati dalla ricerca condotta dall'ADF, seppur nella loro drammaticità, non sono unici e non sono gli ultimi. C'è una lunga serie di episodi legati a quelle appunto che venivano prima introdotte, che noi conosciamo come cosiddette missioni umanitarie, di peacekeeping, di peace enforcement, oppure di polizia internazionale. In questa immagine, forse qualcuno di voi se lo ricorderà, sono le immagini pubblicate dal settimanale Panorama nel 1997 e sono le immagini che riguardano i soldati italiani, questi sono soldati della Folgore, intenti nel torturare un cittadino somalo durante la missione, anche questa di peacekeeping, Ibis Somalia, siamo tra il 92 e il 94, queste foto vengono pubblicate nel 97. Il maresciallo Ercole è quello che vedete che ha appena applicato degli elettrodi a questo somalo nudo e gli manda delle scariche elettriche ai genitali. Forse può essere interessante anche ricordare che ciò di cui era accusato questo somalo, il maresciallo Ercole è stato condannato in primo grado, poi il reato prescritto, però ciò che era, di cui era accusato questo somalo era, non era di, avere, di essere un pericoloso terrorista, era semplicemente accusato di aver rubato una bicicletta. Sempre in questo scandalo, lo scandalo Ibis Somalia, vengono pubblicate su Panorama delle foto, sempre di militari italiani, nell'atto di stuprare una donna somala con un proiettile cosparso di marmellata. Questi sono sempre pezzi relativi a Panorama di, quei, di quel periodo. E lo scandalo Somalia, missione Ibis, la, missione, la famosa missione tra il 92 e il 94. Questa è la foto, è la copertina di un libro che rappresenta appunto la foto di Emanuele Scieri. Forse qualcuno di voi si ricorda il caso di Emanuele Scieri, un allievo paracadutista siciliano. Questo è il libro che hanno scritto i suoi genitori. Emanuele Scieri muore nell'agosto del 1999, viene trovato morto ai piedi di una torretta in cui venivano asciugati dei paracaduti, è la torretta della caserma addestrativa della Folgore a Pisa. Il caso è stato riaperto da poco, in seguito anche all'opera di una commissione parlamentare. Adesso sono accusati alcuni militari di allora di averlo ucciso. È importantissimo questo caso da un punto di vista simbolico e politico perché immediatamente, anche se il caso poi rimarrà insoluto, fino ad oggi ancora non è risolto, immediatamente è stato indicato come un caso di nonnismo. E questo caso rappresenta un po' lo spartiacqua nel contesto italiano, perché in seguito a l'ondata di sdegno per la morte di Emanuele, di questo giovane allievo paracadutista che era appena arrivato tra l'altro in caserma, destra e sinistra si sono messe d'accordo per la fine, per porre fine al servizio militare obbligatorio. Noi sappiamo che la fine del servizio militare obbligatorio di fatto inizia nel 2000, proprio in seguito a questo caso di Emanuele Scieri, perché si era convinti, e questa è una cosa tutta italiana, su questo c'è molto da riflettere anche da un punto di vista culturale e politico, in Italia si era convinti, gli studiosi erano convinti e tutti noi ci eravamo convinti, la sinistra era convinta che eliminando un esercito di leva si sarebbe eliminato il nonnismo. Cosa ovviamente non vera, ma lo vedremo anche dopo. Teniamo presente che questa convinzione è tutta italiana, anche la parola nonnismo è solo in Italia. All'estero, in paesi anglosassoni, il termine corrispondente è hazing, che riguarda qualunque contesto lavorativo, non solo militare. Mentre la specificazione di atti di prevaricazione violenti a cui viene attribuito il termine nonnismo è soltanto in Italia, convinti, come eravamo e come molti sono ancora, erroneamente, che il nonnismo fosse una cosa legata al militare di leva. Beh, queste foto, anche queste tutte un po' le conosciamo, questo è un collage di foto rispetto alle violenze perpetrate dagli agenti delle forze di polizia durante il G8 di Genova, siamo nel luglio 2001, tante le violenze, la morte di Carlo Giuliani, violenze di piazza, ma il caso su cui mi voglio un attimo soffermare è quello che cito in questa sede, quello più interessante per quanto riguarda il nostro discorso, è il caso delle torture accertate relative a Bolzaneto, alla caserma di Bolzaneto. Anche qui sono fatti ormai accertati perfino da verità processuali, decine di agenti di polizia sono rimasti coinvolti nella pratica continua di torture nei confronti di civili che erano manifestanti che erano stati fermati. Anche queste penso sono foto che tutti avete, forse molti hanno visto, queste sono le foto che ci vengono dagli americani, dai militari americani, che hanno fotografato, hanno fotografato dei civili iracheni, si sono fotografati mentre li torturano. Qua siamo nel carcere di Abu Ghraib, in Iraq, diversi militari americani Vi prego di prestare particolare attenzione a queste foto, perché molte delle scene che vengono qui rappresentate e della modalità in cui queste persone vengono torturate hanno un significato profondo per il discorso di oggi, perché non sono né posizioni, né contesti, né tecniche casuali. Cioè rispecchiano perfettamente, ve lo anticipo subito, delle tecniche ben precise di tortura indicate nei manuali. Quindi non è violenza fino a se stessa. Anche qui abbiamo avuto delle condanne, ma come già veniva anticipato benissimo prima da Roberto, qua la tesi che è stata, diciamo, portata avanti principale, ma spesso quando parliamo di questi casi è la famosa tesi delle mele marce. Questo è lo scandalo delle torture da Abu Ghraib, al quale si è collegato successivamente anche lo scandalo, il famoso scandalo di Bagram, della caserma di Bagram, lì siamo in Afghanistan. Sul caso di Bagram, sulle torture e gli omicidi a Bagram, c'è un bellissimo documentario che è Taxi to the Dark Side, che ha anche vinto un Oscar, se qualcuno fosse interessato a vederlo, è fatto veramente bene. Qui ritorniamo in Italia, qui siamo tra i NOX, reparti speciali, siamo a Spinaceto, la caserma dei NOX. Le foto che vedete sulla sinistra sono le foto che riguardano lo scandalo di Spinaceto, venuto fuori nel 2011, pubblicate da Repubblica. La denuncia è di un membro dei NOX che denuncia atti di nonnismo all'interno della caserma di Spinaceto e la pratica di un rituale ben preciso, che è il rituale dell'anestesia. Quindi vengono colpite violentemente con pugni e calci e schiaffi le natiche della recluta, dell'ultimo arrivato, viene così resa insensibile la parte del corpo e vengono poi dati morsi per staccare la carne di quella parte del corpo come rituale di iniziazione, rituale di passaggio di status. Andiamo avanti nel tempo, questo è Tony Drago. Tony Drago muore nel luglio del 2014, è un militare, lui ha tantissime similitudini nella sua storia con quella di Emanuele Scieri, anche lui è siciliano, anche lui sta facendo il militare, non di leva ovviamente, siamo già nell'esercito dei professionisti. Lui ha intenzione, come molti giovani, non tanto di fare carriera militare, ma di fare il poliziotto. In Italia la stragrande maggioranza dei posti per diventare poliziotto, sono riservati in tutti i concorsi ormai dal 2000, principalmente, se non in alcuni casi esclusivamente, a persone che vengono dall'esperienza militare, dai WFP. Questo è un tema enorme e se ne parla poco, a mio avviso, perché sta cambiando davvero, da un punto di vista antropologico, le caratteristiche, a detta questo anche dei sindacati, diciamo, più democratici della polizia, le caratteristiche, da un punto di vista antropologico, dei nostri poliziotti. Perché stanno via via venendo tutti sostituiti da persone che vengono dall'esperienza militare. E quindi parlare di addestramento militare significa parlare di fatto di come stiamo trasformando direttamente le nostre forze di polizia. Tony Drago viene trovato morto ai piedi delle camerette dove alloggiavano, nella caserma di Montebello di Roma. È un caso irrisolto, per la verità è stato archiviato, la famiglia da poco è ricorsa all'EDU, ma alla Corte Europea per i diritti umani. È un caso che cito perché ho fatto da consulente per la famiglia per un certo periodo, conosco molti particolari ed è un caso emblematico, secondo me, al di là della vicenda processuale, o se volete anche per la vicenda processuale che, come in molti casi, ha visto insabbiamenti, reticenze varie, come spessissimo accade in questi casi, è un caso emblematico, secondo me, di nonnismo ancora presente nelle nostre caserme in forma estremamente violente, che hanno tentato poi di fare apparire come un caso di suicidio. Questo è Andrea Soldi, forse qualcuno si ricorda il caso di Andrea Soldi, un ragazzo con problemi di tipo legati alla salute mentale, uno schizofrenico. È morto durante un trattamento sanitario obbligatorio. Sappiamo che nel trattamento sanitario obbligatorio intervengono le forze di polizia insieme con i medici. Sono stati tutti condannati in quanto hanno provocato sia lo psichiatra che gli agenti di polizia municipale hanno provocato la morte di Andrea Soldi con una presa di soffocamento. Arriviamo a George Floyd, il caso forse più eclatante, recente, di una morte provocata dagli agenti di polizia durante un arresto, con tutte le proteste che si sono susseguite. La gente che ha ucciso George Floyd, di questo non se ne è parlato molto, veniva da una lunga esperienza militare. Sappiamo moltissimo su questo caso, se ne è dibattuto tanto, non mi soffermerò. Allora, sono casi molto diversi, sono situazioni molto diverse. Queste sono delle domande che mi vengono appunto parlando, introducendo la relazione di oggi. Esistono dei collegamenti tra questi episodi appunto così diversi l'uno dall'altro? Sono episodi occasionali, sono episodi inevitabili? È davvero convincente la tesi che viene spesso portata avanti, soprattutto in alcuni di questi casi, relativa alle cosiddette mele marce? E restando sul caso di George Floyd, che so che vi è interessato e continua a interessarvi particolarmente, è davvero e principalmente o esclusivamente legato a delle motivazioni di tipo razziale, che è certo che ci sono? Per provare a rispondere almeno ad alcune di queste domande, sto conducendo da alcuni anni, come già aveva anticipato Roberto, che ringrazio moltissimo per l'invito, e ringrazio Giancarlo per la mediazione che mi porta in questo tempio qua al Conchetta. Per provare a rispondere a queste domande, da tanti anni mi sto occupando di una ricerca appunto etnografica sull'addestramento militare. La relazione di oggi, sapete, questo è il titolo, è La maleducazione militare e poliziesca, violenza, tortura e managerial science. Visto il numero, sarebbe anche bello, e vorrei procedere in questa maniera, fare qualcosa di il più possibile interattivo. Però magari in una prima parte, che cercherò di ridurre al massimo, di concentrare l'esposizione di quelli che sono alcuni aspetti della ricerca e di risultati della ricerca, e poi magari lasciare spazio agli interventi ed eventualmente richieste di approfondimento. L'oggetto della mia ricerca è lo studio delle pratiche addestrative delle forze armate, questo già è stato ampiamente anticipato. L'ipotesi attorno alla quale si sviluppa tutta la ricerca è che esiste una correlazione tra il modello addestrativo delle forze armate ed episodi di violenza sadica incontrollata che vengono perpetrati da parte degli attori sociali che sono formati sulla base di quel modello. Perché il tema è rilevante? Beh, penso che lo sappiamo tutti perché il tema è rilevante. Due parole per mettere in evidenza quanto questo tema sia rilevante, intanto per il contesto in cui ci troviamo. Tantissimi autori, scienziati sociali, qua ne cito soltanto alcuni, ma veramente è sterminata, come sapete, la bibliografia su queste tematiche. Parlano della crisi della democrazia contemporanea e della ricerca di forme autoritarie che cerchino appunto un po' di mettere ordine al disordine che stiamo tutti, che in tanti percepiscono in tempi di globalizzazione. Punti di vista diversi, approcci diversi, però tutti questi attori mettono in evidenza questi aspetti rispetto alla crisi della democrazia. Ed è chiaro che in un momento del genere diventa particolarmente rilevante uno studio sulla formazione di quei soggetti che, come noi sappiamo, almeno dal punto di vista della letteratura scientifica, a partire da Max Weber in poi, sono i soggetti che, per delega dello Stato, gestiscono nei paesi democratici il monopolio dell'uso della violenza. Quindi a maggior ragione in un momento del genere diventa particolarmente importante capire come vengono formati i poliziotti e quindi tutti coloro che gestiscono in modo monopolistico la violenza. L'altro aspetto che rende particolarmente rilevante studiare questo fenomeno è il processo di militarizzazione che tutti stiamo vivendo e che si sta estremizzando. Roberto prima ha anticipato giustamente il processo, il cosiddetto processo della doppia conversione, quindi lo svolgimento di funzioni di polizia da parte dell'esercito all'estero, si parla di polizia internazionale, e dall'altra parte lo svolgimento di funzioni di ordine pubblico da parte dei militari. Genova docet rispetto a quanto sono state messe in atto anche nuove tecniche militari per la gestione della piazza con apparati militari. Ricordiamoci tutta l'azione dei Tuscania, dei carabinieri paracadutisti e il G8 di Genova. Questo processo di doppia conversione che viene descritto da sociologi come Alessandro Dallago, Turi Palidda, questo processo di doppia conversione è rappresentato in modo plastico e in modo chiarissimo dai carabinieri, che vengono utilizzati indifferentemente, senza problemi, sia in operazioni di cosiddetta polizia internazionale e sia in questioni di ordine pubblico. Un processo di militarizzazione che, come avevo anticipato prima e di cui non si parla abbastanza, rispetto anche alla sempre maggiore militarizzazione delle forze di polizia grazie alla legge Martino, da quando c'è un esercito di professionisti, la stragrande maggioranza dei posti per tutti gli agenti di polizia, compresi la polizia penitenziaria, per come vengono gestite le carceri, tutti gli agenti di polizia, è riservata a chi viene dal WFP, quindi è riservata a chi viene dall'esperienza militare. Qualcuno parla appunto di una vera e propria trasformazione antropologica. In questo contesto di militarizzazione io inserirei, e però sto raccogliendo tantissimo materiale, però la ricerca diventa enorme, quindi chissà quando riuscirò a pubblicarla se continuo così, sul processo di militarizzazione culturale negli ambiti più disparati. Io rimango sorpreso di quanto la cultura militare sia presente nelle nostre vite quotidiane, anche in ambiti in cui io non mi rendevo conto, nello sport, per esempio. Al di là di discipline che nascono in ambito militare e continuano ad avere delle connessioni fortissime con il militare, tipo, come esempio, le mixed martial arts. Alessandro Dallago sta per pubblicare, non so se l'ha pubblicato proprio in queste ultime settimane, proprio un libro sulle arti marziali miste. Ma la sigla più importante a livello mondiale delle arti marziali miste, che è lo sport emergente da tutti i punti di vista, lo sponsor ufficiale è l'esercito americano. Ci sono nelle nostre palestre, le nostre palestre sono piene di tecniche addestrative che vengono dall'esperienza militare. Le TRX sono militari, le kettlebell sono militari, tutti i programmi addestrativi di alta intensità, quelli che si fanno durante l'aerobica, durante tutte le varie tecniche in palestra, vengono dalla cultura militare. Questo per restare sullo sport, dirla brevemente. Per non parlare dei videogiochi per bambini. I videogiochi militari sono talmente ormai raffinati che vengono utilizzati da diversi eserciti per addestrare le truppe, sono gli stessi videogiochi con piccoli accorgimenti che vengono utilizzati dai nostri bambini fin dai primi anni di vita, per non parlare della moda e quant'altro. Tutto questo è il contesto della militarizzazione. Due parole sul metodo. Dice, ma tutte le cose che vengono fuori da questa ricerca da dove arrivano? Beh, è una ricerca che sostanzialmente si basa sul metodo etnografico. So che la platea è mista, dico due parole su che cos'è il metodo etnografico, mista, eterogeneo, insomma magari c'è qualcuno che non sa che cos'è l'etnografia, può essere una cosa anche abbastanza di nicchia per certi versi, lo strumento che ho utilizzato. L'etnografia è lo strumento che utilizza lo scienziato sociale per conoscere una cultura immergendosi in quella cultura, quindi cercando di comprendere il punto di vista dell'altro attraverso un processo di immedesimazione. Quindi il ricercatore non rimane distante dalle persone, dal gruppo, dalla cultura che vuole studiare, ma si immerge in quella stessa cultura, intervenendo dall'esterno. Si immerge. In alcuni particolari casi il ricercatore fa già parte della cultura che vuole studiare. In questi casi non si parla di etnografia genericamente, cioè di un inserimento dall'esterno verso l'interno, ma si parla di autoetnografia, perché il ricercatore fa già parte di quel mondo. La mia è un'autoetnografia perché mi sono basato fin dall'inizio principalmente, anche se poi il discorso si è sviluppato, della mia esperienza diretta militare nella Folgore. E quindi la comprensione del sistema educativo è partito da un'esperienza che ho fatto, diciamo, sulla mia pelle. Credo di essermi iscritto a sociologia principalmente per mettere un po' di ordine nella mia vita dopo aver fatto l'esperienza militare. Questo tipo di approccio per gli appassionati del genere è un approccio che comunque ho cercato di portare alle estreme conseguenze, perché si inserisce in quella che alcuni autori, in particolare Vacant, che è un allievo di Bourdieu, per chi fosse interessato al genere, definisce carnal sociology, quindi l'idea di coinvolgersi e sentire sulla propria pelle il più possibile quello che cerchi di capire rispetto al mondo che stai studiando, fino a proprio a un coinvolgimento di tipo sensoriale. Vacant studia i pugili facendo pugilato. Anche qui vado velocemente, però solo per contestualizzare da dove parte questa ricerca, chi sono io, quali sono i miei pregiudizi rispetto a questa tematica. Queste sono delle foto storiche. Io ho fatto il militare nei paracadutisti non tanto perché ho delle tendenze di tipo fascistoide o le avessi allora quando ho fatto il militare nei paracadutisti. Allora non sapevo che i paracadutisti fossero orientati molto a destra, per capirci, nella mia ignoranza. Io ho fatto il militare nei paracadutisti perché mio nonno materno è stato il primo paracadutista militare d'Italia. È indicato nella foto da una freccia, queste sono foto storiche. I primi paracadutisti, non esisteva ancora la Folgore, i primi paracadutisti d'Italia militari furono istituiti nella caserma di Castelbenito. Siamo a Tripoli, questo che vedete è Italo Balbo, un fascista di primo piano che allora governatore della Libia, già ministro dell'aeronautica, volle fortissimamente i paracadutisti militari, istituì questa scuola di paracadutismo. Erano degli esperimenti, perché ancora non esisteva il paracadutismo militare in Italia, c'erano gli ascari che venivano a fare questi esperimenti con i nuovi paracaduti, e poi circolavano anche delle richieste agli ufficiali, quelli che volevano fare delle prove di coraggio. Mio nonno fece questi lanci, ecco, sempre dalla foto, vedete la freccia di mio nonno, ha fatto i primi lanci con i paracadutisti, non è morto, molti morirono in quei lanci, si è solo rotto una clavicola, ed è stato premiato come primo paracadutista d'Italia. E quindi io, quando appartengo a una generazione che ha fatto il servizio militare obbligatorio di leva, come forse qualcuno qua dentro, non so se qualcuno l'ha fatto qua dentro, qualcuno l'ha fatto, bravo Renato. È stato premiato con un telegramma di Italo Balbo, quindi io sono cresciuto con questa figura. Mio nonno non era un fascista, figura ardimentosa. E quando si è trattato di fare il servizio militare obbligatorio, ho detto: io voglio andare nei paracadutisti. E l'ho fatto, quindi ero là, ho fatto i lanci, ho fatto l'addestramento. Questo è il mio gruppo primario, la squadra Scorpioni, non la compagnia Tigre, alla Smipar di Pisa. L'ho fatto bene, diciamo così. Ho fatto il servizio militare nei paracadutisti con incarico operativo. Ero nella squadra NBC di reggimento, cioè la squadra nucleare, biologica e chimica, una squadra molto operativa. E ho fatto il militare nel periodo proprio della missione Ibis in Somalia. Ero volontario per partire per la Somalia. Poi il mio scaglione fu il primo che non partì, per mia fortuna. Però ho vissuto il rientro di tutti quelli che venivano dalla Somalia e quelli che erano i racconti dei reduci. Quindi già in caserma ho iniziato a sentire le prime storie in cui si vantavano di stupri, si vantavano di aver ucciso persone nell'oscurità che non sapevano chi fossero, quando dovevano posteggiare l'RVM e per sicurezza prima sparavano e poi posteggiavano e poi magari capitava che c'erano dei civili morti a terra. Questo approccio autoetnografico l'ho continuato nel tempo, per cui anche se ho fatto il militare soltanto per un periodo breve rispetto a tutti questi anni che vedete indicati, che sono gli anni sostanzialmente in cui ho raccolto dati, il militare l'ho fatto tra il 93 e il 94. Ho continuato a raccogliere dati anche successivamente, come sempre attraverso un approccio etnografico. Per esempio, quando ho pubblicato nel 99 estratti del mio diario, avevo tenuto un diario da paracadutista, ero già iscritto a sociologia, iniziavo a occuparmi di studiare, avevo questa intenzione già quando ero studente di sociologia, anche se poi non ho fatto la tesi su questo, le pratiche addestrative, alcuni rituali che venivano utilizzati in caserma per il trasferimento di patrimonio culturale, che è quello militare dei paracadutisti. Quando seppi della morte di Emanuele Scieri, mi coinvolsi molto in quel caso e decisi di pubblicare estratti del mio diario. La cosa ebbe un certo rilievo sulla stampa nazionale, ci fu pure un'interrogazione parlamentare, e fui interrogato, fu aperto un fascicolo per le cose che avevo detto, per reato continuato di violenza contro inferiore, ingiuria inferiore continuata, e sono tutti dati che mi sono serviti per capire come funzionava. Dati che mi sono serviti, per esempio, il tentativo di alcuni ex commilitoni che cercavano di convincermi a ritrattare alcune cose che dichiaravo nel mio diario, l'interrogatorio alla Spezia dalla Procura Militare. Ero sul campo e raccoglievo dati, non ancora in modo sistematico, però sono tutti dati che poi successivamente ho utilizzato. Ho raccolto dati per un periodo in cui ho fatto da consulente per la famiglia di Toni Drago rispetto alla sua morte, che a mio avviso è avvenuta durante un rituale di nonnismo, un rituale particolarmente violento di nonnismo. Ho raccolto dati anche che si sono incrociati, perché nelle etnografie succede questo, le etnografie durano anni, e quindi uno non è che è sempre sul campo rispetto a quell'etnografia. Per un periodo ho fatto una ricerca in un centro sociale di Trento, occupato il centro sociale Bruno, partecipavo come appunto un ricercatore che etnograficamente era coinvolto nella ricerca che faceva, partecipavo alle loro azioni, e quindi mi è capitato anche di essere fermato dalla polizia, denunciato, eccetera, tutta una serie di azioni che non erano legate direttamente alla ricerca sull'addestramento militare, ma mi hanno permesso di sapere come vieni trattato dalla polizia in certi contesti, come scomoda la macchina della polizia quando vieni portato in caserma, che tipo di frasi ti vengono dette quando ti prendono le impronte digitali o ti interrogano, eccetera, eccetera. Altri dati li ho raccolti attraverso interviste in profondità a testimoni privilegiati, e quindi persone esperte sul tema, che sono agenti delle forze dell'ordine, militari, eccetera. E poi la stragrande maggioranza dei dati degli ultimi anni, perché l'esercito, in generale le istituzioni che sto cercando di studiare sono quelle che noi consideriamo delle istituzioni totali, per dirla con Goffman, e quindi sono veramente ermetiche, è difficilissimo avere informazioni, le fonti indipendenti infatti sono rarissime rispetto a ricerche su questi aspetti. Mi sono arrangiato. Ci sono delle interessantissime inchieste giornalistiche, soprattutto a livello internazionale, e poi c'è una letteratura eccezionale negli ultimi anni che riguarda sia, grazie a internet, sia la manualistica addestrativa, soprattutto legata all'addestramento di base, che è quello che ho studiato di più, quello che, diciamo, trasforma l'individuo, o mira a trasformare l'individuo accompagnandolo dalla vita civile alla vita militare. Tutti gli addestramenti di base in tutto il mondo, in tutti gli eserciti, hanno delle caratteristiche comuni, sia dal punto di vista del tempo, si va dalle 10 alle 12 settimane, sia per quanto riguarda le fasi, sia per quanto riguarda le tecniche che vengono utilizzate, sia per quanto riguarda il modello di interazione, sia per quanto riguarda il modello psicologico che viene utilizzato nell'interazione. E quindi poter studiare questi manuali è stato utilissimo per la mia ricerca, così come c'è una sterminata letteratura sempre più disponibile su internet rispetto alla manualistica sulla tortura. Ovviamente quando parlo di tortura, che ha avuto e sta avendo un'importanza enorme nella mia ricerca con riferimento all'addestramento militare negli ultimi anni, quando parlo di tortura non mi riferisco alla tortura intesa come fare del male fino a se stesso, sadico nei confronti dell'altro, eccetera. Quella sì è tortura, ma non è la tortura che mi interessa, la tortura militare, quella che viene praticata dappertutto, in tutti i paesi democratici, oltre che ovviamente quelli non democratici, ancora oggi, è quella finalizzata all'ottenimento delle informazioni. Quindi è un'azione razionale rispetto allo scopo, un'azione razionale per la quale vieni addestrato con delle tecniche ben precise e con dei manuali ben precisi. Dal Kubark Manual in poi c'è una letteratura vastissima e hanno tutti i manuali, anche lì, delle stesse caratteristiche. Vabbè, vado avanti qua velocemente. Dal punto di vista della strumentazione concettuale, non so se ci sono degli scienziati sociali in platea, io mi rifaccio all'interazionismo simbolico. Ok, quindi l'oggetto, addestramento militare. È un tema enorme quello dell'addestramento militare, perché se voglio capire l'esercito devo studiare l'addestramento. Questa è una frase di un famoso militare americano di altissimo rango: in the army training is everything and everything we do is training. Quindi se vuoi conoscere la cultura militare devi studiare l'addestramento, e da lì riesci davvero a capire la cultura militare. E ho cercato di individuare, quindi, attraverso anche un lavoro storico, io non sono uno storico, quelle che sono le principali caratteristiche, il principale, potremmo dirla weberianamente, le principali caratteristiche di quello che potremmo definire il tipo ideale di soldato. Il tipo ideale di soldato, quindi le caratteristiche ideali del soldato, vanno ancorate al tipo di guerra che il soldato deve combattere. Questo mi sembra un'affermazione abbastanza banale, ma è fondamentale. E la guerra si è trasformata nel tempo. Quindi noi abbiamo un modello tradizionale, che era quello di un soldato che doveva combattere una guerra sostanzialmente corpo a corpo, moschetto e baionetta, che quindi doveva essere addestrato per combattere quel tipo di... doveva essere capace di gestire le emozioni, la paura, nel contatto diretto con il nemico, anche dal punto di vista tecnico doveva conoscere delle tecniche che gli permettevano di sopravvivere nel affrontare il nemico da vicino. Questo modello cambia quando cambia la guerra, e la guerra cambia in modo particolare, un fortissimo cambiamento, sia fra la prima e la seconda guerra mondiale. Restiamo sulla seconda guerra mondiale, che abbiamo degli esempi forse più diretti e più vivi nella nostra memoria. Si inizia a parlare di una guerra tecnologica, la techno-war. Chi è che ha vinto la seconda guerra mondiale? Chi aveva la maggiore tecnologia, la migliore tecnologia, una tecnologia che ti permetteva di uccidere, ha permesso di uccidere centinaia di migliaia, milioni nel tempo di persone, rimanendo a distanza, schiacciando un pulsante. La techno war, e questo è un aspetto importante per capire dove stiamo andando, oltre a un aumento della tecnologia, prevede l'introduzione in modo sistematico della managerial science all'interno dell'esercito, la scienza manageriale. La scienza manageriale, che è nota sempre di più in vari ambiti, nasce in ambito, l'ambito suo è quello economico, ma la scienza manageriale, la managerial science, nasce in guerra. Cioè ha una data precisa, con la ricerca operativa. La ricerca operativa è il cuore della managerial science, quindi durante la Seconda Guerra Mondiale. Per chi fosse interessato, c'è un lavoro molto bello, se ne è parlato, credo è stato, anzi sono sicuro, è stato tradotto da poco in italiano, di uno storico francese, che è Jean Chapoutot, che è uno storico della Sorbona, il quale ha messo in evidenza i collegamenti fortissimi che ci sono tra nazismo e managerial science. Lui addirittura segue la figura di un famoso nazista, Reinhard Hoehn, che sarebbe diventato nel secondo dopoguerra il riferimento principale in tutta Europa degli studiosi di managerial science, divenendo colui che ha fondato addirittura l'Accademia di Bad Harzburg, che è stata per tanti anni l'accademia principale che ha formato tutti i manager delle più grandi e importanti multinazionali legate al contesto europeo. Quindi con la Seconda Guerra Mondiale vengono introdotte nuovi tipi di formazione legata alla tecnologia, e alla managerial science dentro l'esercito. L'idea è quella di formare dei soldati che possono vincere la guerra senza mai andare in contatto con il nemico, sostanzialmente, la sintetizzo in modo estremo. Questo modello va a sbattere contro un muro, contro il muro della guerra in Vietnam, Corea e Vietnam, perché i soldati addestrati in questa maniera poi invece improvvisamente si trovano a combattere una guerra che è completamente diversa da quella per la quale erano stati addestrati. Perché? Perché la guerra è sporca, è la guerra di guerriglia, si finisce dietro le linee nemiche, non si è abituati al contatto diretto col nemico, non si è abituati a resistere alla tortura, c'è tutto il fenomeno delle diserzioni, il movimento pacifista all'interno delle forze armate, tutte le famose interviste dei militari americani torturati che vengono costretti a dire le cose più negative nei confronti degli Stati Uniti. Esplode un problema enorme, oltre, diciamo così, alla sconfitta proprio militare sul campo, perché i militari non erano addestrati a quel tipo di combattimento, bisognava correre velocemente ai ripari. E come si corre ai ripari? Si pensa a produrre sistemi addestrativi che blindino la mente e quindi che formino una estrema capacità di resistenza dei militari. La bulletproof mind. E da dove si prende spunto per blindare, addestrare i militari a resistere alle torture, a non coinvolgersi mai con il nemico, a non discutere gli ordini, neanche con tutto il problema delle diserzioni che c'era stato in quel periodo? Si prendono spunti dagli ultimi ritrovati della guerra fredda. Era in corso la guerra fredda, gli psicologi la facevano da padroni rispetto a tutta una serie di progetti che erano quelli di tortura, che servivano per estorcere le informazioni al nemico nella guerra di spie. E vengono quindi importati dentro l'esercito tutte quelle tecniche addestrative che da una parte durante la guerra fredda erano utilizzate per estorcere le informazioni al nemico, da un punto di vista dell'esercito invece diventavano tecniche attraverso le quali insegnare ai militari a resistere alle emozioni, alle torture, eccetera eccetera. Sto andando in estrema sintesi, ma c'è plasticamente la rappresentazione di questo modello, di questo tipo di modelli addestrativi, con un programma importantissimo a livello mondiale, che è il programma SERE. L'acronimo sta per Survival, Evasion, Resistance and Escape. Il modulo SERE nasce negli anni 50 dall'esercito americano e consiste nell'insegnare pratiche di sopravvivenza, evasione, resistenza alla tortura e fuga. Resistenza alla tortura si inizia, cioè da quel momento, a torturare i militari per insegnare loro a resistere alle torture. Badate bene che questo programma è diffusissimo. Tutti i corpi speciali di tutto il mondo fanno il programma, i moduli del programma SERE, e sempre di più questo programma viene impartito anche a appartenenti non a corpi speciali. Nell'esercito italiano è diffusissimo. Perché è importante questo? In modo immediato si capisce che se io imparo a resistere alla tortura, al di là poi delle conseguenze che questo può avere a livello psicologico, eccetera, eccetera, però se io imparo a resistere alla tortura, imparo a torturare. Non a caso gli estensori dei manuali sia di addestramento militare sia di addestramento alla tortura sono gli stessi. E prima parlavamo dell'Accademia, è sempre più ormai è evidente il coinvolgimento di scienziati sociali nella stesura di questi manuali, anche quando non è esplicitato, ormai leggendo i manuali proprio si individuano immediatamente la strumentazione concettuale di riferimento, che è dichiaratamente una strumentazione concettuale che fa riferimento ormai a dei filoni ben definiti di strumenti che vengono utilizzati a livello educativo. Quali sono le caratteristiche della personalità del soldato così formato, non riflessività, obbedienza cieca, disumanizzazione del nemico. Il modello di base dal punto di vista psicologico è il modello comportamentista, portato alle estreme conseguenze, quindi chiaramente nell'evoluzione del condizionamento operante. Ma su questo magari vado velocemente, se ci sono poi domande posso io non so prendere il tempo, quindi se sto sforando qualche cosa bloccami, perché magari vado due parole, perché l'avevi citato prima, è importante questo, il coinvolgimento dell'accademia, il coinvolgimento delle scienze sociali, mentre in Italia se ne parla molto poco e non se ne parla perché c'è un coinvolgimento che viene anche nascosto, talvolta parlo dal punto di vista dei sociologi. Dicevo ieri a Roberto quanto fossi rimasto sorpreso di recente nello scoprire che due sociologi di primo piano a livello nazionale, di area di sinistra, marxista, non saprei neanche più, perché sono etichette ormai a livello accademico che realmente, non perché non esista più il marxismo, non esista l'etichetta di sinistra, ma non viene rispettata da chi viene detto appartenere, diciamo, a quella categoria. Due sociologi di quest'area li ho trovati fare parte del comitato scientifico della Fondazione ICSA, che è la fondazione che ha fondato Minniti, una fondazione fatta tutta da generali della Folgore, capo del Sismi, queste fondazioni che ci sono in tutto il mondo, per carità, queste reazionarie, però in cui nel comitato scientifico ci sono solo due sociologi e sono due di quell'area, e per giunta controllano tutte, diciamo così, le pubblicazioni. Prego? Certo, certo. Marzio Barbagli è un sociologo della devianza che penso tutti conoscono, è stato molto criticato di recente, e non di recentissimo, sulle sue posizioni sull'immigrazione, però è il pezzo più grosso, credo, che ci sia. È un professore emerito dell'Università di Bologna, è sul mulino, è la persona più importante, Istituto Cattaneo, quindi di sicuro non è un'area, diciamo così, di destra come di riferimento, e il suo allievo è Asher Colombo, Università di Bologna, e tutti e due fanno parte della Fondazione ICSA, mi ha impressionato, per cui non c'è tanto dibattito in Italia, all'estero c'è, e il coinvolgimento della psicologia con la guerra è profondo, però all'estero c'è un dibattito, per esempio nasce il network of concerned anthropologists, sono proprio in totale contrapposizione all'utilizzo degli antropologi per favorire le pratiche, quelle come quelle di cui parlavi prima, Roberto, oppure c'è una discussione fortissima, c'è stato un dibattito molto forte nell'associazione degli psicologi americani accademici, sul fatto che non fosse opportuno eticamente sicuramente partecipare, come invece è successo, c'è stato uno scandalo, alla stesura di programmi di tortura a partire dall'11 settembre in poi, lo sappiamo, è stata praticata in modo sistematico la tortura. Là ci sono tutta una serie di escamotage anche giuridici, ma non entro nel merito. Comunque, gli ambiti principali che mettono in evidenza tutto quello che sto dicendo, anche se poi c'è un'evoluzione di questi due ambiti, è quello addestrativo legato alla tortura, il Kubark Manual, ormai è disponibile su internet, è stato pure tradotto in italiano, con tutti i manuali successivi, ce ne sono tanti collegati. E poi il programma SERE. Il programma SERE è un programma, anche questo, disponibile, ci sono tutti i manuali, e utilizza tutte le tecniche di tortura presenti anche nel Kubark Manual, quindi c'è una fonte. No, vado verso la fine, così poi se ci sono domande eventualmente posso ritornare su degli approfondimenti. Dunque, che cosa emerge dallo studio di questi manuali, sia addestrativi militari, sia addestrativi relativamente alla tortura, del torturatore, quindi. Che cosa emerge dall'analisi della cultura delle caserme, che ho ancorato all'analisi, per esempio, di alcuni rituali? I rituali sono importantissimi per capire una cultura, soprattutto quella militare, perché se c'è una cultura formale che viene impartita attraverso un addestramento di base, poi c'è tutta la parte informale del tempo, cioè anche che si passa al di fuori della caserma, al di fuori dei tempi strettamente addestrativi, che viene occupato dai rituali informali. Faccio un esempio. Io ho studiato un rituale dei paracadutisti, che è il rituale della pompata. È un rituale specifico della Folgore. Questo rituale viene praticato da tutti i militari della Folgore in qualunque momento della loro giornata, in qualunque momento della loro vita. Cioè, ci sono, ho raccolto testimonianze di persone della Folgore che a 90 anni praticano questo rituale. Nella vita civile, se io incontro un paracadutista, anche se siamo in borghese e lui mi riconosce, io sono in grado di fargli praticare questo rituale. Sono le flessioni sulle braccia, però con una modalità ben precisa, è una ritualità ben precisa, che è tipica della Folgore. Tutto ciò fa sì che questo rituale venga utilizzato anche per passare tutta una serie di norme e di valori che sono specifici di quella cultura, in tempi che sono al di fuori dell'ambito strettamente addestrativo. Quindi è come se ci fosse un addestramento costante e permanente. E quindi una formazione a quel tipo di personalità, che poi ha delle caratteristiche che ho studiato. È una personalità autoritaria e fascista, quella che viene formata alla fine di questo processo di socializzazione. Quando utilizzo il termine fascista, ovviamente lo faccio in modo principale da un punto di vista psicologico, quindi con riferimento alla scala F di Adorno e compagni, per cui quelle caratteristiche di eccessiva attenzione alla sessualità, ossessione, sadismo, eccetera, tutta quella serie di items che definiscono quel tipo di personalità, sono delle caratteristiche che possono riguardare qualunque soggetto a prescindere dall'orientamento politico. Sono caratteristiche psicologiche. Ovviamente ciò non significa che nelle forze armate, come emerge dalle interviste, dalle esperienze dirette personali, eccetera, oltre a una dimensione, diciamo così, che potrei definire sostanziale di fascismo, di mentalità autoritaria, c'è una dimensione fortissima di fascismo storico, di simboli, di ritualità che si rifanno al fascismo, quello là, degli anni 20. Potrei farvi tanti esempi, se volete poi ci torno su questo, perché di questo sappiamo che è un argomento molto attuale, però secondo me non se ne parla con criterio scientifico adeguatamente. Cioè, spesso attaccando questo tipo di cultura da sinistra, secondo me prestiamo il fianco, nel modo in cui l'attacchiamo, prestiamo il fianco ad alcune banalità che ci vengono dette, alle quali non riusciamo a contrabbattere adeguatamente. Però questo è un altro discorso. Ho studiato i manuali di tortura e ho studiato le varie fasi della tortura, il modello interazionale di riferimento e il modello psicologico di riferimento. Sia nei manuali della tortura, sia nei manuali di addestramento militare si individuano delle fasi ben precise, un modello interazionale ben preciso e un modello psicologico ben preciso che si sovrappongono. Sì, si sovrappongono. Cioè, in pratica, tutti i manuali addestrativi militari dell'addestramento di base, quello che va dalle 10 alle 12 settimane, seguono tre fasi, però schematiche, esplicitate. Una prima fase in cui si deve azzerare la personalità dell'individuo. Una seconda fase, che è quella fase di transizione, in cui si entra in quella che viene definita la terra di nessuno, secondo i rituali di passaggio, mi rifaccio all'antropologia, Fangennep, no? Non sei né carne né pesce, quindi ti sei separato dalla vita civile, ma non sei ancora diventato militare. Lì è una fase di negoziazione. E ognuna di queste fasi prevede delle regole e dei rituali precisi, specifici, che vengono, cioè sono studiati a tavolino per poter seguire tutte queste varie fasi. È chiaro che la fase di infantilizzazione che è presente sappiamo noi nell'accesso in tutte le istituzioni totali, ma in particolare in quelle che hanno la finalità di formarti verso la vita militare, il processo di infantilizzazione prevede una dinamica interazionale ben precisa tra recluta e formatore, il sergente Hartmann. A proposito, per chi non avesse fatto il militare, visto che l'abbiamo fatto solo noi due, credo qua dentro, e volesse avere un resoconto ineguagliabile rispetto a quello che è l'addestramento militare a cui mi sto riferendo, come tipo ideale, proprio rappresentato in modo perfetto, primo tempo di Full Metal Jacket. È perfetto. E anche le recensioni fatte dai Marines e tutti quegli esperti lo dichiarano, quello è il documento che meglio rappresenta quanto sto dicendo rispetto anche a queste tre fasi. Quindi, prima fase di azzeramento. Seconda fase, dopo che hai lasciato, attraverso tutta una serie di rituali, di pratiche, di annientamento della personalità, il mondo precedente, sei nella terra di nessuno, vieni plasmato. Terza fase, aggregazione. Tutto questo in un processo di infantilizzazione ben preciso, con una dinamica ben precisa di interazione tra addestratore e addestrato, e sulla base di un modello psicologico esplicitato che è di tipo comportamentista, condizionamento operante in modo specifico, premi punizioni, ma dettagliato nella descrizione anche manualistica. Noi sappiamo che io non ho nulla contro il comportamentismo, se ci sono degli psicologi in sala, degli avanti della psicologia, il comportamentismo ha dato dei risultati enormi, soprattutto su alcune categorie di persone, su alcuni handicap particolari, nel caso dell'autismo ha dato dei grandissimi risultati, nell'addestramento degli animali ha dato dei grandissimi risultati. Sui limiti che ha rispetto all'addestramento militare, poi magari ci torniamo. Questo per quanto riguarda l'addestramento di base. Ma andiamo ai manuali di tortura. I manuali di tortura, tutti i manuali di tortura prevedono una prima fase di azzeramento, esplicitata, in cui devi perdere i punti di riferimento. Ti mettono nudo, ti mettono vestiti ampi, ti vengono a prendere all'alba, quindi tutti i momenti in cui devi perdere qualunque punto di orientamento. E c'è tutta una serie di regole da seguire per farti perdere questi punti di orientamento. Ti tolgono gli orologi da qualunque parte, ti mettono al buio quando vuoi, c'è tutta una serie di tecniche. Vieni annientato, ti infantilizzi, diventi completamente nelle mani, diciamo, passi nelle mani del tuo torturatore, entri nella fase di transizione, che è la fase vera e propria di tortura, in cui a volte si arriva anche, per come viene detto nei manuali, alle forme più violente. Il waterboarding è una delle forme più note delle pratiche, delle tecniche più recenti di tortura che sono venute alla ribalta negli ultimi anni, sempre attraverso un sistema di premi e punizioni, sempre attraverso il modello di base comportamentista, sempre attraverso un'infantilizzazione dell'individuo. Cioè, è scritto nei manuali che va infantilizzato l'individuo che deve essere torturato, per portarlo alla collaborazione, ovviamente, e quindi alla confessione o alle notizie che ti deve passare. E per finire poi con la fase di aggregazione, che se nell'addestramento militare è la fase in cui ti danno l'incarico, dopo un addestramento di base uguale a tutti, nella tortura è il premio perché hai iniziato a collaborare. Ma tutto scritto, parola per parola, con le stesse caratteristiche. Allora, dicevo quindi, le conclusioni. Il modello addestrativo all'interno dell'istituzione militare è voluto e controllato dall'istituzione in quanto necessario e funzionale agli scopi ultimi dell'istituzione stessa. Non c'è nulla di lasciato al caso. Qui non c'è superficialità, il colonnello Buttiglione, che era, non mi ricordo, c'era un film che prendeva in giro i militari, nulla è lasciato al caso. Il sistema educativo militare si basa sui principi della psicologia comportamentista, questo in tutti i manuali, all'interno nell'osservazione di tutti i rituali di caserma, tutti i rituali punitivi, tutti i rituali anche di iniziazione, tutti i rituali di appartenenza, hanno alla base il modello stimolo-risposta comportamentista. L'addestramento militare mira alla formazione di personalità autoritarie e fasciste, come abbiamo detto, che in condizioni di stress porta gli attori a tenere comportamenti sadici e di violenza incontrollata. Qui non ho detto molto rispetto al perché succede questo. In estrema sintesi, però, se volete poi ci possiamo tornare, uno dei limiti del modello comportamentista è il seguente. Il modello comportamentista psicologico ti insegna a rispondere in modo automatico a determinati stimoli che sono delle variabili. Per potersi addestrare a rispondere in modo automatico, un individuo deve essere sollecitato, stimolato dalle variabili che devono essere quelle, parlando del militare, le stesse che poi si troverà ad affrontare in combattimento. E quindi, così come Skinner aveva la sua gabbia con i topi, e quindi un luogo dove controllava le variabili per insegnare ai topi come dovevano rispondere in modo automatico, la caserma diventa il laboratorio nel quale vengono simulate le situazioni e quindi le variabili che l'individuo si troverà, il militare si troverà ad affrontare, alle quali dovrà rispondere in modo automatico quando andrà in combattimento. Qual è il limite enorme di questo modello? Che in tempi, se volete, di globalizzazione o comunque in tempi contemporanei, la situazione in cui ci si troverà a combattere o la situazione in cui ci si troverà a intervenire, combattere all'estero, intervenire in situazioni di ordine pubblico, non è assolutamente riproducibile in laboratorio, perché non sono assolutamente controllabili le variabili o prevedibili tutte le variabili. Questo fa sì che spessissimo io sono addestrato a rispondere in automatico nei confronti di alcune variabili, gli occhi a mandorla e la divisa verde, quando invece poi in combattimento non troverò una divisa verde, perché magari il nemico appunto combatte una guerra sporca, e io allora inizierò a sparare in modo indiscriminato, senza selezionare, sparerò a tutti quelli che mi stimolano sulla base degli occhi a mandorla, anche se hanno il pancione, anche se sono delle donne che non c'entrano, dei bambini, eccetera, eccetera. L'ho messa un po' così, ma questa è, diciamo così, la spiegazione psicologica. Il comportamentismo ti aiuta a rispondere in modo automatico in situazioni semplici. Le situazioni in cui si trovano a combattere i militari o gli agenti delle forze di polizia a fare ordine pubblico sono situazioni complesse. Per cui questo addestramento non va comunque bene, a prescindere poi dalle finalità. E quindi in situazioni di stress sappiamo quello che succede. L'addestramento militare io lo chiamo un torturative training. È un ripercorre, infatti, l'addestramento militare, le stesse fasi, lo stesso modello relazionale, cioè l'infantilizzazione, lo stesso modello psicologico, cioè il condizionamento operante, che caratterizzano le azioni di tortura. Questo, se questo è vero, l'evidenza empirica, almeno dei dati che ho raccolto, lo mette in chiaro risalto, significa che tutti coloro che seguono quel tipo di addestramento vengono torturati, di fatto. Subiscono delle torture, consapevolmente o inconsapevolmente. L'impatto che un risultato del genere può avere è abbastanza, diciamo così, secondo me è rilevante, sia per capire le violenze sadiche di tortura poi perpetrate nei confronti dei civili. Non sono violenze irrazionali nella modalità in cui sono eseguite, cioè il modo in cui vengono picchiate le persone al carcere di Santa Maria di Capo Vetere, o il modo in cui sono state torturate le persone alla Bolzaneto, è un modo scientifico, e non c'è neanche necessità che ci sia un ordine impartito in certi casi, basta mettere gli ingredienti giusti in certi contesti e l'azione sarà automatica e sarà scientificamente guidata da un modello che già si è appreso perché lo si è vissuto sulla propria pelle. Quando io vedo quelle scene, sono scene che mi fanno, la prima volta, ma io so torturare, a me è iniziato a torturare pur non avendomi mai esplicitamente detto si tortura così. Perché il tipo di addestramento che ho avuto prevede quelle stesse fasi, prevede quello stesso modello interazionale, prevede quel modello psicologico di riferimento. Infine, le azioni di tortura quindi si verificano a prescindere da una volontà politica diretta e sono correlate al modello di addestramento impartito nelle caserme. Io so che ho sparato, però mi fermerei qua se ci sono domande e poi posso scendere più nel dettaglio su alcuni argomenti. Col microfono, così resta registrato e va in streaming. Dunque, dalla tua relazione iniziale, quella in cui elenchi le situazioni a cui viene applicato l'addestramento militare, hai secondo me tralasciato il problema dei confini, della violenza sui confini europei. Vabbè, è un caso, ma comunque volevo sottolineare anche quello. L'altro aspetto che a me interesserebbe esaminasse di più è quello della penetrazione della cultura militare nella scuola e nelle università, la cultura militare soprattutto nella scuola come cioè applicata con visite, della presenza dei militari nelle scuole, che fanno relazioni, fanno conversazione, fanno piccoli tipi di addestramento. Qui, se vuoi, ho fatto un articoletto io che posso che espone queste cose. L'altra è la collaborazione università-esercito, che non si limita ovviamente a quelle facoltà scientifiche che sono particolarmente impegnate nello studio di nuove armi, delle armi automatiche, ma appunto sta coinvolgendo sempre di più le facoltà umanistiche. Tu parli di sociologia, ma parliamo anche di tutti quei ragazzi che vengono preparati per fare servizio nelle ONG. Io lo ritengo un servizio militare anche quello. Sono i possibili disoccupati che trovano questa occupazione alternativa. Credo che non ci sia altro. Ma procediamo, rispondo di volta in volta? Perché c'è subito un'altra domanda. C'è la signora. Mi interessavano due cose. Uno è il ruolo dello spirito di corpo in tutto, della costruzione dello spirito di corpo. L'altro è, hai dato delle descrizioni di un'educazione fortemente maschilista, però adesso ci sono le donne. A Abu Ghraib al centro c'era una donna, io me lo ricordo bene perché mi aveva colpito, avevo scritto anche qualcosa, non mi ricordo più cosa. E quindi come viene modulato per le donne questo tipo di addestramento, se è modulato? Io ricordo che sono stata per lavoro alla Folgore e c'erano queste donne appese lì esattamente come i maschi, torturate in questo modo. È la stessa tecnica o cambia? No, io ero interessato, ma non necessariamente che lo sviluppi adesso, all'accenno che hai fatto tra diciamo così, l'addestramento del corpo proprio presso i militari e la sua travaso dentro le pratiche postmoderne della costruzione del corpo. Se hai un riferimento bibliografico, se hai qualche... Perché uno dei temi del disciplinamento della nostra vita passa anche attraverso le palestre, inutile far finta di no. Cioè le palestre, anche quelle più, come dire, soft, ma l'idea di corpo che esce da lì è molto importante. Ma non voglio che perdi tempo. Allora, grazie per le domande. Vado alla prima. Sul tema dei confini europei, sì, cioè, vale nel senso non è che lo sminuisco, anzi, cioè, è microsociologia, questa vale sempre, in qualunque confine, chiunque deve gestire un confine e addestrato in questo modo farà quello che per il quale è stato addestrato e quindi si comporterà di conseguenza. Con queste caratteristiche. Il discorso della cultura militare nelle scuole, certo, interessantissimo. Io per ora mi sto occupando di più È interessantissimo perché effettivamente c'è, lo sappiamo, cioè accordi con la polizia per fare incontri nelle scuole oppure con l'esercito, eccetera. Queste sono anzi manifestazioni che personalmente, qua però do una mia opinione, sono quelle che temo di meno, perché sono esplicite. Se lo dico, temo da, diciamo da... Mentre quelle che mi preoccupano di più nello studio, che mi hanno preoccupato e continuano a preoccuparmi, e sempre di più, sono quelle latenti. Cioè quelle che riguardano appunto le pratiche di disciplinamento del corpo nelle palestre, per esempio. E questo prescinde dal fatto che ci siano le palestre di MMA che spesso sono gestite da persone di orientamento fascista. Il libro di Berizzi su questo è interessantissimo, lui ha fatto veramente una bella inchiesta da questo punto di vista. Quindi ci sono tantissime palestre che sono un orientamento esplicito fascista, ma al di là di quello è tutto ciò che è appunto microfisica del potere, nel momento in cui abbiamo tutta una serie di pratiche che derivano dalla vita militare e le utilizziamo noi tutti i giorni. Quando parlavo prima, le TRX, che rappresentano un'innovazione enorme nelle palestre, sono quelle fasce alle quali ci si attacca per fare esercizi che sono in pratica a corpo libero. La TRX nasce nell'esercito per permettere ai militari di addestrarsi quando sono in missione e non hanno la palestra, sono in un sacchettino e se le portano appresso. E le corde, quelle pesanti che si usano nelle palestre, si chiamano battle rope, sono le corde di battaglia perché derivano da da esercizi fatti nella marina. Le kettlebell sono dei pesi con una maniglia, derivano dall'esercito russo, e ci sono in tutte le palestre, tutte le signore, tutti i bambini utilizzano questi strumenti. Tutta una serie di tecniche addestrative, quelle ad alta intensità, derivano dal mondo militare. Vogliamo restare, mi sto collegando ai bambini. Il tema per me è ancora più rilevante. È il tema dei videogiochi, il modello stimolo-risposta in questi videogiochi che disumanizza, che punta proprio a disumanizzare l'altro, addirittura passa non solo attraverso un modello psicologico generico, ma un modello psicologico utilizzato per giochi che sono nei contenuti pure militari. Ma vogliamo parlare, sempre per restare nel tema dei bambini, dei reality show. Cioè, il reality show, cioè abbiamo un reality show che si chiama Il Collegio e un altro che si chiama La Caserma. E La Caserma, e se ne è parlato poco, è condotto, o era condotto, mi sono perso se è finito, se non è finito, da due militari, della Folgore, del Colmoskin. Cioè, i Colmoskin sono il reparto più addestrato per le missioni operative, fanno tutte le cose che ci sono da fare nelle missioni più estreme, e questi due membri alti dei Colmoskin sono in questo reality a fare la parte degli addestratori che capiscono la ragazza che ha problemi di omosessualità, oppure fanno la predica al ragazzo perché si deve togliere gli orecchini, eccetera, eccetera. Quindi sono dei messaggi che passano in tantissime forme. Il bullismo non è una ricaduta del militare sul civile? Io lo so dire. Di sicuro, se parliamo di cultura militare... No, questo non lo so, quindi le rispondo subito, non lo so, non ho dati per poterlo, diciamo così, affermare. Però, restando sul tema culturale di come può attraversare, perché anche era un po' l'intervento, mi collego quindi anche a un'altra domanda, e poi passerò allo spirito di corpo e alle donne. Quali sono gli altri modi attraverso i quali sta passando questa cultura? Ho parlato poco di managerial science. La scienza manageriale, cioè, è dentro la nostra vita quotidiana e sempre di più. Quando, intanto, Hearn, lui parla di nazismo, per me il collegamento vero non è tanto tra managerial science e nazismo, quello rilevante, anche se è la figura di un nazista, quella che lui ripercorre, ed è interessantissimo, la storia di Reinhard Hearn, ma il collegamento vero è tra managerial science e militarismo. Diventa nazismo perché alla base di tutti i fascismi noi sappiamo che c'è una componente grande quanto una casa in tutte le culture fasciste di militarismo. Però il vero collegamento è il militarismo, infatti la managerial science nasce in ambito militare ed è presente in tutte le aziende proprio come pratica addestrativa. All'Accademia di Bad Harzburg, che è quella dove c'era Reinhard Hoehn, che è citato da Chapoutot, si sono formati tutti i più importanti manager della Philips. Aldi ha fatto un libro scandalo. Così come sappiamo che Amazon ha dei programmi specifici attraverso i quali recluta ex militari, perché se li trova già formati. Poi, rispetto alla tematica del passaggio di questi elementi culturali nella situazione nostra odierna della gestione della pandemia, cioè, chi ci ha salvato? Oltre a Dio, il generale dell'esercito, no? È giusto? Figliuolo. Questo è il messaggio che passa. E mi ricordo quando c'era il dibattito se chiamare Figliuolo oppure no, ma mi ricordo chi aveva detto un intellettuale: secondo me, più che un militare, noi dovremmo chiamare uno un pezzo grosso di Amazon. Sono la stessa cosa ormai, peggio mi sento. Quindi, quando si manifestano in modo così esplicito, con le visite a scuola, per capirci, o quando almeno lo vedo, cioè è quello, e so di che cosa si tratta. La cosa più delicata, secondo me, difficile da individuare, sono tutti quei messaggi che arrivano attraverso altre fonti. Lo spirito di corpo è centrale. Tutto passa attraverso il gruppo primario. Alla base del modello addestrativo militare c'è il gruppo primario. È attraverso quel gruppo che passano tutti i valori, tutte le norme militari in genere di quello specifico corpo. È la famiglia che diventa del militare. Io ho studiato lo spirito di corpo con riferimento sia al gruppo primario nel quale ero inserito, quello addestrativo, ma soprattutto rispetto ad alcuni rituali. Il rituale della pompata è un rituale che ci fa sorridere, perché il rituale, non so se l'avete mai visto fare un paracadutista fare le flessioni sulle braccia, uno se l'immagina dal film, è come rituale di punitivo, è sbagliato, anche questo si fa nelle palestre, a proposito, diciamo così, e quindi fai un tot di flessioni sulle braccia. Non c'entra niente col rituale della pompata, che prevede un modo di andare a terra, con un certo numero di schiaffi, non ve lo faccio per l'età che ho, non ce la faccio più. Però c'è un modo per andare a terra, dopo che si va a terra a fare le flessioni con un ordine ben preciso, si rimane in una posizione perché si fanno le flessioni e poi ci si deve riposare, ci si può riposare senza toccare col ginocchio a terra, ci si mette a ponte. Ecco, allora, questo è il rituale. Quindi si fanno quindi l'anziano ti ordina di andare a terra e tu vai a terra e pompi. Questi sono paracadutisti, questi mi sembra degli anni 60, non mi ricordo adesso. Questi sono i leoni, il leone è l'ultimo paracadutista che è morto pochi anni fa, che ha fatto El Alamein. A 90 anni faceva le flessioni sulle braccia per rispetto di un rituale che definisce il tuo essere paracadutista. Solo i paracadutisti pompano. Durante il mio servizio militare all'inizio non ci facevano pompare perché non eravamo dei veri paracadutisti, noi non vedevamo l'ora di pompare a terra e di essere picchiati mentre pompavamo, perché questo ci faceva diventare, ci faceva essere dei veri paracadutisti. Con tutta una serie di tecniche che peraltro nell'analisi proprio anche delle varie posizioni che sono previste in questo rituale, si individuano anche tutta una serie di posizioni che poi ho ritrovato nelle pratiche di tortura, di stress position, c'è poi tutta la tecnica delle stress position, fra le quali ritrovo pure le posizioni dei paracadutisti. Queste sono rituali tutte pompate dai paracadutisti. Si sta a terra finché l'anziano non ti dà, l'anziano o il superiore in grado, l'ordine di restare diritto, puoi rimanere a terra per ore. Questa per esempio è una cerimonia di premiazione di civili dell'Associazione Paracadutisti d'Italia. Li fanno poppare. Assolutamente sì, questa è un'altra dimensione, ma veramente è un terreno sterminato, infatti sì. Qua siamo nella caserma dove stavo io a Siena nei mesi successivi all'addestramento a Pisa. Questa è una riunione di ex paracadutisti, sono tutti padri di famiglia che dopo 10, 15, 20 anni che hanno finito il militare fanno il raduno in caserma, sono tutti civili questi qua. Prima di entrare in mensa a mangiare fanno la pompata di gruppo. E a proposito dello spirito di corpo, se io, ci sono vari tipi di pompata, ma se io vedo un paracadutista, ma pure fuori dalla caserma, se lo riconosco ovviamente che è un paracadutista, quello, ora vi spiego, che sta pompando, io devo pompare per rispetto a lui se siamo della stessa anzianità o se lui è più anziano di me. Significa che quando il generale Celentano, che ora è inquisito per la... indagato per la morte di Emanuele Scieri, che allora era il comandante della mia caserma, e quando facevamo la numerazione all'interno della caserma chiedeva di numerarci le prime file con la mano a paletta, lui diciamo così si diceva fosse un nostalgico, diciamo così, lo dimostrava frequentemente nel modo in cui gestiva le adunate mattutine. Perché sono arrivato a cena. Vabbè, ok, se Celentano va a terra, tutta la caserma va a terra. Quindi, spirito di corpo, certo, si rafforza così, in continuazione. Se io sono in giro, se ci fosse, non c'è un paracadutista, vero? Qua? Cioè, io sono più anziano e metto il dito a terra, un paracadutista fa due schiaffi in aria e si butta a terra, anche se là sotto, per rispetto al fatto che un anziano sta toccando terra. Ora, sembra una cosa... stupido, quello che vuoi, però rafforzano lo spirito di corpo, non mi fanno uscire mai di fatto dalla caserma, anche quando sono fuori dalla caserma. Forse vi posso raccontare anche un aneddoto di quanto è dentro. C'è un tipo di pompata che è quando ti cade il basco a terra. Se ti cade il basco a terra, per rispetto del basco, tu ti devi buttare immediatamente a terra, fare un certo numero di flessioni guardando il basco e poi raccoglierlo con i denti. Vi assicuro, a proposito dell'autoetnografia, che io ho ricordi di volte in cui almeno una in particolare mi era caduta a terra, ero solo e mi stavo buttando da terra e ho detto ma sono scemo, ma perché sono norme, ed è vero che poi le interiorizzi, quindi non le fai soltanto per dimostrare o per avere dimostrato. Avevo un allievo, io non ho fatto quasi mai pompare nessuno, ero in questa, diciamo, squadra operativa, alla fine del militare è il momento in cui tu hai più potere, perché sei l'anziano, ti possono fare meno, hai un potere maggiore. Avevo un bel rapporto con i miei allievi, gli ultimi arrivati, non li facevo, ripeto, pompare mai, c'era questo. Ma poi così, la squadra NBC era caratterizzata da avere tutte persone con un bassissimo livello di alfabetizzazione. Io scrivevo le lettere ad alcuni miei allievi che dovevano spedirle alle loro fidanzate. E questo... è da studiare pure sul discorso degli incarichi operativi, ma torna in ballo il tema della riflessività, cioè del modello ideale, il soldato che non deve essere riflessivo, e quindi l'istruzione probabilmente è uno strumento che ti permetterebbe quella riflessività, o potenzialmente ti potrebbe permettere quella riflessività che è pericolosa quando potresti mettere in discussione un ordine. Comunque, torniamo a noi senza divagare. Questo nevio, lo chiamiamo nevio, questo butta fuori questione, allievo mio, andavamo d'accordo, era un buono, no? Mi ricordo che era del nord-est italiano. Stava finendo il mio servizio militare e davanti a tutti, a un certo punto, parlando, scherzando, vedo che mi manca di rispetto. E dico, ma che fa questo qua? Davanti a tutti gli altri paracadutisti, mi fa la battuta. E insiste. E mi guarda e ride. Non mi aveva mai mancato di rispetto, però per me, da un punto di vista proprio anche dello spirito di corpo, sentivo che dovevo fare qualche cosa. E a un certo punto gli dico, pompa, non l'avevo mai fatto. E lui schiaffi in aria, poi non bestia fisicamente, lui faceva le flessioni con gli armadietti di metallo sulla schiena. Si butta in aria, inizia a flettere e riflettere, e dico, ti sei calmato? E mi risponde di nuovo. E insiste, mi prende di nuovo in giro, e io do un calcio, perché bisogna colpire in certi casi, no? In quel rituale, era previsto proprio dal rituale. Ok, lo colpisco, gli do un calcio, vedo che lui, non lo scalfisco, perché poi, insomma, era veramente... A un certo punto gli dico: Ritto, alzati, ti puoi alzare. Vedo lui che si alza, lo guarda andare verso il bagno, si toglie la maglietta, si guarda allo specchio che io ho fatto dei lividi sulla schiena, mi guarda e mi dice: bravo, sei veramente massiccio. Tutto sorridente mi dice questo. Insomma, cosa era successo? Siccome non li facevo pompare mai, si era sparsa voce che era un anziano debole e lui lo faceva per me. Di farsi picchiare perché così io acquisivo rispetto da parte degli altri. Quindi il tema del sadismo e masochismo, ancora torniamo sulla personalità autoritaria e fascista, lì è molto presente all'interno di questi rituali che sono particolarmente, in alcuni casi sono particolarmente violenti. Questa è la mia convinzione personale, che in alcuni casi appunto può avere avuto delle conseguenze anche mortali, un rituale di pompata, diciamo, punitiva. Le donne. Sì, le donne. Le donne, ci sono casi recenti che hanno dimostrato che il nonnismo c'è il caso recente di Claudia Schiff, mi sembra, quella dell'aeronautica, la ragazza dell'aeronautica, alla quale è stato dato torto, tra l'altro. Lei aveva denunciato questo atto di nonnismo, che consisteva nell'essere stata frustata durante un rituale di iniziazione, dopo che aveva superato l'esame per il brevetto. Quindi ci sono ancora rituali, e le donne si comportano, per le poche informazioni, perché ecco, questo forse un tema anche da sinistra che può essere interessante. Molti a sinistra, quando si è arrivati al servizio militare obbligatorio, l'esercito dei professionisti hanno esultato come uno spostamento appunto verso sinistra, di una cultura verso a sinistra. Sul fatto che la cultura oggi sia meno militarista, l'abbiamo appena detto, sicuramente questo non è successo, ma soprattutto, parlando del tema di oggi, se prima avevamo delle persone che facevano un anno di servizio militare, perché c'era il militare obbligatorio, e poi uscivano e raccontavano quello che succedeva dentro, perché così un sacco di scandali si sono anche scoperti, atti di nonnismo, eccetera, adesso questo non succede più. Cioè noi abbiamo perso praticamente il contatto con una realtà che è diventata sempre più totale, è un'istituzione ancora più totale di prima, dove probabilmente succedono molte più cose di quelle che succedevano prima dal punto di vista negativo, però adesso non abbiamo più notizie di quello che succede. Per quanto riguarda le poche esperienze che anche di donne che ho intervistato, fanno le stesse cose tendenzialmente, quindi non c'è, se è la donna che si è mascolinizzata, non c'è un esercito che si è femminilizzato con l'introduzione delle donne. Alcuni, forse un paio d'anni fa, o forse anche di più, erano uscite delle notizie delle violenze nei confronti delle donne soldato all'interno dell'esercito americano. No, volevo solo dire a proposito di questa cosa qui, che ho visto una bellissima mostra al Festival di Fotografia Etica Lodi, mi pare uno o due anni fa, sulle donne soldato che negli Stati Uniti avevano poi denunciato le violenze e hanno fatto tutte delle bruttissime fini, perché a chi è andata meglio probabilmente è finito a fare il clochard senza tetto da qualche parte, cioè non c'è stata nessuna accoglienza di queste cose. Vieni qui a dire la tua stupidata. Crea qualche dubbio, non so, qualche perplessità. l'idea che definiamo ancora, come dire, le interrelazioni personali dentro un'istituzione e la loro produzione simbolica come spirito di corpo, che è un termine molto approssimativo, io credo, potremmo vederlo in modo un po' più complicato. E mi veniva l'ipotesi di poter ascrivere a questi comportamenti una, come dire, perversione sadomasochista, intesa nei suoi, come dire, sviluppi più interessanti che ne ha fatto la psicanalisi, diffusa socialmente e istituzionalizzata. Per cui, come dire, coloro che appartengono a una certa istituzione, più che pensare che c'è un corpo a cui appartengono, che ha uno spirito, che loro appartengono a uno spirito in generale, che è lo spirito sadomaso, per semplificare, dico per semplificare, potrebbe essere molto più complicata la faccenda. Perché davvero ho praticato per un po' di tempo delle arti marziali di origine orientale, che non c'entrano un cazzo con la guerra, ma molto vagamente. Mentre poi ho visto dei giovanissimi figli di amici, cari, poi mettersi in questo giro dello stesso, come chiamano così, modalità di movimento corporeo, portata oggi al farsi picchiare. Cioè, io ho studiato un po' poco il jiu-jitsu, ma adesso fanno un jiu-jitsu in cui tu, quando non puoi più muoverti, battevi, no? Adesso, quando ti stai per morire strozzato, batti. Cioè, quando stai per svenire perché quello ti sta strozzando, tu batti. Ma che completamente, come dire, una perversione dell'aspetto dell'autocrescita che poteva essere quello delle arti marziali orientali, eccetera, legate al buddismo, al taoismo, a tutte queste stupidaggini qua. Qui c'è un fondo. Ti educano al sadomasochismo. È troppo semplice dire ti educano al sadomasochismo, ma un'educazione al sadomasochismo che poi si mostra, ma persino in certe manifestazioni, come dire, vado in manifestazione, le do e le prendo. Non sono sempre convinto che vada bene, io personalmente. C'è qualcosa che non va, perché resta un fondo, che è quel fondo lì, che mostra che quelle tecniche, perché hanno retto le guerre, perché le guerre sono state pur vinte da qualcuno, no? Che hanno retto le guerre sono tecniche accettabili. Il generale Figliolo sarà, se sa fare una guerra, saprà anche fare, come deve comportarsi, ridistribuire risorse umane dentro delle situazioni di emergenza sociale, insomma. Solo questo. Forse do solo un feedback, perché è interessante la riflessione, grazie, un feedback al volo rispetto alla terminologia. Sì, quando utilizzo spirito di corpo, sì sì, ma mi interessa la riflessione perché è centrata, secondo me. Spirito di corpo lo metterei tra virgolette, perché è il modo in cui si autorappresentano le persone che praticano quei rituali in quella maniera, per esempio. Da un punto di vista sociologico lo chiamerei senso d'appartenenza, quindi c'è un fortissimo senso d'appartenenza. Poi se lo valutiamo in positivo o in negativo, e quindi seguo la riflessione, mi interessa senz'altro. Spirito di corpo è proprio il modo in cui viene continuamente rappresentato da chi evidentemente ha in genere un giudizio positivo rispetto a quella pratica. Questi riti di iniziazione c'è violenza, ma anche imitazione della sessualità, cioè seguono delle metodologie di questo tipo. Quali sono gli elementi fondanti? Il sangue, come i vecchi riti di iniziazione, e lo stupro? Davvero qua si entra in campi che non conosco, né tantomeno ho rilevato così tanti dati, però parlando della pompata, quindi al di là del termine che non c'entra con la sessualità, rispetto alla pratica invece proprio di questo tipo di rituale, spessissimo la posizione assunta da chi fa pompare è di mettersi a cavallo di chi sta sotto. Esatto, anche per poterlo picchiare in modo più agevole, ai fianchi. E quindi sì, c'è una simulazione dell'atto, in alcuni casi sì, senz'altro. L'altro collegamento con la sessualità però è davvero indiretto, quindi lo cito soltanto perché solo di questo ho avuto un... c'è un tipo di pompata che era quella per il passaggio della stecca. Il passaggio della stecca è il regalo che fa l'anziano quando sta andando, sta finendo il servizio militare. È un regalo che getta ai piedi dell'allievo, il quale per rispetto si butta a terra guardando l'oggetto che gli viene regalato, può essere un oggetto che viene dalle missioni all'estero, un bossolo, qualunque cosa, per rispetto, e fa un certo numero di flessioni. Spessissimo nella stecca erano dei giornaletti porno. Il porno in caserma era un aspetto fondamentale. Io ci sono andato a sbattere la faccia più di una volta. Anzi, proprio vi posso raccontare due episodi velocemente. Uno, quando ero volontario per andare in Somalia, però non riuscivo ancora a partire, perché poi non è partito nessuno, per fortuna, aggiungo, ma ci tenevano continuamente pronti a partire. Ogni volta ci dicevano queste notizie per tenerti sempre pronto, la settimana prossima forse si parte, fra 2 settimane si parte. A un certo punto le notizie che giravano in caserma sembravano quelle di una effettiva partenza, e subito dopo questa notizia che girò ci arrivò la comunicazione che il cappellano militare ci convocava tutti in un'assemblea, tutti insieme, in una plenaria nel teatro. E io ho detto, allora vedi, questo cappellano che non mi ha fatto mai tanto simpatia perché gira con la divisa, con i gradi, forse ci vuole parlare dei problemi spirituali oppure dei problemi di andare a ammazzare qualcuno in missione, può capitare, no? In missione umanitaria. Quindi ingenuamente pensavo questo, ci convoca tutti insieme in teatro, silenzio, tutti che pensavamo che stavamo per partire, e il cappellano dice, allora la tematica di cui parleremo oggi è quella delle bestemmie e della masturbazione, dei problemi del porno e della masturbazione. Quando ho alzato la mano, ho detto, ma è vero che stiamo partendo, potremmo parlare anche di altre cose? Mi disse, no, la circolare parla chiaro. È una tematica la più rilevante di cui ci stiamo occupando, è la circolazione dei porno all'interno della caserma e quello delle bestemmie. Appunto, un riferimento... Vabbè, no, sul porno lascio a... Ci sono vari aneddoti su... è magia, cioè per come l'ho visto dal punto di vista sociologico. Io non sono un esperto di sociologia delle religioni, però il tipo di religione che ho vissuto all'interno, che ho vissuto, è solo autoetnografia, era principalmente di tipo magico, nel senso di chiedere un intervento per essere protetto dall'alto, ma mai un elevarsi verso, per come l'ho vissuta, ripeto, non posso generalizzare, è un'esperienza nell'ambito delle poche persone con cui interagivo parlando di religione. Una cosa su Bolzaneto che hai citato, no? Perché ripensando alle torture di Bolzaneto, soprattutto alle canzonette, a tutto quell'aspetto verbale, alla luce anche di quello che dice, viene un po' il dubbio. Cioè abbiamo interpretato molto quanto accaduto sulla base dell'appartenenza, del sostrato fascista anche della penitenziaria, dei GOM in quel caso. Quanto viene il dubbio che invece fosse più legato al fatto che i detenuti erano sovversivi, comunisti di sinistra, il fatto di usare quel tipo di umiliazione verbale, no? Quindi, e poi se hai qualcosa di più, se nella tua etnografia hai incontrato qualcosa di più rispetto alla penitenziaria, che ha comunque la specificità di avere delle persone in custodia, quindi dei corpi inermi, e poi che ha partecipato a un sacco di missioni all'estero e quindi ha incontrato negli ultimi decenni l'esperienza di guerra all'estero e se ci sono stati delle contaminazioni. Beh, grazie. La domanda, la prima riflessione è davvero interessante e sarebbe da sviluppare. Rispetto alla tortura è noto che il contributo che è stato dato anche da alcuni antropologi era legato all'individuazione dei punti deboli di quella determinata cultura a cui apparteneva la persona da torturare, per poter incidere su quelli. Per cui, restando sul porno, a un musulmano integralista lo costringo a vedere immagini di porno e lo sto torturando. Se costringono me, mi diverto. E quindi lì il tema della conoscenza dell'altro, e quindi anche quello a cui facevi riferimento, ci potrebbe stare. Cioè, so che l'altro è una zecca comunista, come faccio a farlo stare male? Lo costringo a cantare una canzone fascista. Però ancora una volta torniamo al discorso tecnico. Cioè, realmente nelle rappresentazioni delle torture a Bolzaneto, delle torture ad Abu Ghraib, cioè, sono tutte immagini che riguardano schemi perfetti di tortura. Cioè, non c'è nulla di casuale. La nudità, ora tornando alla sessualità, l'umiliazione sessuale, sono tutte tecniche che servono per infantilizzare l'altro e quindi per fargli abbassare le difese e poterlo poi manipolare. Invece non ho esperienza. Io ho fatto un'intervista proprio di recente rispetto a questa tematica, però non ho, tra l'altro mi sto occupando di carcere gli ultimi non da tantissimo, e quindi mi interessa particolarmente quell'ambito là. Quello che posso dire della polizia penitenziaria è che è una polizia di serie B, C, D. Sono poliziotti senza pistola. Quindi vivono sì, assolutamente. E in molti casi invece sono, cioè, quelli che lo capiscono invece sanno che hanno un ruolo enorme dal punto di vista educativo. Io sto lavorando nel carcere di Catanzaro da alcuni anni, e le esperienze meravigliose di rapporto con alcuni agenti di polizia penitenziaria, che però appunto riconoscono a se stessi, non tanto enfatizzano il ruolo poliziesco, e quindi quando si enfatizza quello si diventa di serie B, C, D, perché non è la pistola, perché, ma riconoscono l'importanza del ruolo educativo. Però nella mia ignoranza, appunto, io scopro come, oltre a essere in pochissimi, sotto organico, eccetera, poi normalmente nella quotidianità, e questo c'entra poi con la gestione di alcune rivolte cosiddette o proteste, quello che sia, spessissimo il poliziotto di polizia penitenziaria, oltre a non essere armato, è da solo contro 30-40 persone. Questo nella quotidianità, cioè vive una continua e costante frustrazione e situazione di stress, perché il giorno in cui c'è una rivolta, il momento in cui scoppia, lui è solo. Questo per capire le dinamiche all'interno del carcere, per me è stato importantissimo. Sì, non l'ho visto ancora, e non partono mai, e quindi ci sono 12 detenuti e pochi sbirri, perché alla fine cioè devono evacuare, il carcere deve chiudere e non chiude mai, e quindi poi mano a mano la storia si svolge tutto all'interno di questo carcere, e il gioco è chi è il carcerato, perché se io sono qua e sono vincolato, tu sei vincolato insieme a me, e quindi non vi racconto poi tutto il film, ma è molto interessante perché un po' esprime quello che stavo dicendo anche lui sulla difficoltà quotidiana, che tutti i giorni sei lì senza niente, con delle persone che non sono quelle che non sanno scrivere la lettera alla fidanzata e hanno scelto di farsi torturare, magari ci sono anche altre persone che hanno un'intelligenza maggiore, un'esperienza maggiore, e ti trovi un secondino che manco sa fare un congiuntivo, no? E quindi può esserci una crescita anche dall'altra parte, quindi era interessante come film. Sì, perché secondo me anche la scelta la scelta forse anche un elemento da prendere in considerazione, perché io se ho degli allievi che scelgono di essere torturati o comunque di imparare queste tecniche di annientamento e di ricostruzione dell'io, è un discorso. Se invece ho delle persone che non hanno scelto di fare questo percorso, ma sono o perché prese in una manifestazione o perché prese in un contesto di guerra, come fare allora a gestire la tortura in quel senso lì, mi domandavo, perché io sì, la posso imparare in un laboratorio, la posso imparare sui manuali o su persone che decidono magari come me di fare un certo percorso, però poi se sono in un campo aperto, non so, mi facevo un po' di queste domande qua rispetto sull'intenzione o anche la volontà di chi ti trovi di fronte. Poi magari, ovvio che poi se uno è più forte fisicamente penso che vinca, non lo so, devo ancora un po' capire questa situazione, però secondo me la scelta fa, cioè se io ho una determinazione, se ho questa linea, se sono da una parte o dall'altra conta. Sono un po' di riflessioni che stavo facendo rispetto alla tortura. Ma nelle tue parole la tortura è diventata un paradigma epistemologico. Sì, beh, d'altronde voglio dire. Sì, sì, è un paradigma. Naomi Klein ce l'ha detto in tanti modi, quindi è certo, sì, come no, è un modello. Ma sono tanti modelli che sono sempre più diffusi, perché poi trovano punti di contatto tra di loro. Il modello comportamentista, il modello della tortura, il modello della disumanizzazione dell'altro, che è fondamentale se voglio... l'azienda di successo è un'azienda che punta tutto alla prestazione, è su quello che si basa il modello di riferimento, e deriva dal managerial science che fu impartita durante, secondo Chaputot, lo mette in evidenza in modo molto chiaro, durante il nazismo, in delle pratiche che sono state corroborate già durante il nazismo, anche a livello che hanno permesso quindi una formulazione concettuale che questo nazista di primo piano, SS di primo piano, Reinhard Hoehn, poi ha traslato paro paro nella scuola di formazione di Bad Arnsburg, quindi formando tutti i manager importanti, e formando sia manager importantissimi a livello europeo e militari, perché questo faceva l'Accademia. Le due cose vanno insieme. Altro? Mezza cosa soltanto, che non può essere sviluppata stasera, ma tu vi hai accennato. Quando hai parlato dei limiti del modello comportamentista e della differenza che passa tra la previsione di alcune condizioni rispetto alle quali si deve predisporre una risposta automatica e la realtà dello scontro, la realtà della presenza sul territorio della fanteria, perché poi può essere ed è ultra equipaggiata, può avere armi ultra sofisticate, però si tratta di controllare pezzi di territorio andando avanti e indietro, usando certo tutti i visori possibili, immaginabili, ma comunque se c'è qualcosa che le guerre contemporanee hanno dimostrato è che non basta la tecnologia, non si può combattere in assenza del nemico, cioè si può bombardare fino a non far crescere più l'erba, ma poi quel cazzo di territorio lo devi controllare e chi lo controlla sono le pattuglie. Ecco, un tema secondo me bello da affrontare è proprio questo: quando si esce dalla simulazione e si affronta il nemico con le caratteristiche del nemico contemporaneo, quindi quella sua multiversità, quella sua indeterminatezza, quel suo carattere fondamentalmente anch'esso civile, politico, militare al tempo stesso, non quindi più un esercito contrapposto, E lì, ecco, si può misurare anche il successo o l'insuccesso degli apporti che possono essere forniti dalle scienze sociali, perché sicuramente c'è stato di nuovo un chiamare a partecipare, una nuova integrazione forte, che ha avuto sì qualche risposta critica, ma che proprio ha ricollocato queste discipline nel solco dal quale in realtà provenivano, però i risultati non sono stati entusiasmanti, nel senso che il contributo che hanno dato fior di team socio-antropologici alle forze d'occupazione sia in Iraq che in Afghanistan non hanno permesso di risolvere alla fine bel niente, perché se sei lì a rubare solo, a distruggere tutto e a farti odiare finché vivrai per i prossimi mille anni, l'apporto delle scienze sociali più di tanto non, però comunque è una cosa molto molto interessante, soprattutto nella sua pervasività all'interno, cioè di quella che tende sempre più a essere una nazione armata, e quello che era potuto sembrare appunto un processo di specializzazione e quindi limitazione, riduzione della professione militare, in realtà corrisponde al contrario a un'estensione dei modelli militari e a una sua pervasività crescente un po' in tutti gli ambiti della vita, sia a partire dalla presenza dei militari nelle strade, sia in quella contaminazione che è stata ampiamente descritta prima. Rispetto alla questione sessualità, esercito e modello militare, vabbè, ci sono chiaramente quintali di studi molto significativi anche rispetto al virilismo, però c'è un libro che a me ha colpito parecchio quando è uscito qualche anno fa, pubblicato da Rizzoli nella collana Contemporanea, dove sono riprodotte le foto, per lo più sono autoscatti, di militari americani, sia maschi che femmine, che sono estremamente esemplificative e significative dell'erotizzazione soggiacente a tutta la... Non so se l'avevi... non mi ricordo... il curatore è uno storico grosso della fotografia, però ha un momento di amnesia. Ma è proprio una raccolta di queste foto, di questi autoscatti. Sono immagini veramente forti, che ricalcano anche in modelli, se vuoi, più vieti, della, perché poi si ritrovano allo stesso modo proprio nella pornografia, eccetera. Però l'interessante è che sono tante e sono fatte dai militari. Ecco, è un lato, non è l'unico, ma è un lato grosso. Ecco, volevo... Chiaramente questa la prima cosa potrà essere oggetto di un prossimo incontro. Magari vale la pena di dire brevemente soltanto che effetto hanno prodotto i tuoi studi, perché insomma non è che ti hanno detto bravo, fanne un altro, ma però devi essere più critico. Ecco, racconta brevemente questa cosa e poi direi se non ci sono altro... Senz'altro racconto degli effetti, volentieri. Prima però volevo solo aggiungere una cosa, perché mi era venuto in mente rispetto a quello che dicevi, sul ruolo, che tra l'altro è collegato, del sociologo, dello scienziato sociale. Io non mi preoccupo quasi mai di intervento, mi interessa l'intervento sui fenomeni, ma so che per poter intervenire adeguatamente prima bisogna conoscerli bene, quindi se non li conosco bene, e conoscerli bene significa non farsi troppo condizionare dall'idea di doverci intervenire. Per cui in genere punto tutto a testa bassa sull'analisi, poi magari l'analisi so che se potrà servire a qualcuno che vuole intervenire per migliorare Ma nel caso specifico, essendo proprio direttamente coinvolto così tanto in profondità, me lo sono anche chiesto. Ma perché? Perché è emerso anche dalle interviste, dalle letture, che lo sanno benissimo i vertici militari che questo modello non funziona. Non funziona. Fa dei danni incalcolabili dal punto di vista psicologico. Tutte le morti che ci vengono nascoste, i suicidi, le violenze. Mi è capitato di parlare di questo modello addestrativo a degli psichiatri, psicologi, psicoterapeuti. C'era la fila di persone poi che mi veniva a dire: ora ho capito, violenze familiari, cosa potrebbero essere associate, eccetera, eccetera. Perché è un tipo di addestramento che evidentemente ha come effetti secondari anche questi. Tutti i problemi dei reduci sono problemi che non hanno solo i reduci che vanno in missione, hanno tutti quelli che sono addestrati con questo tipo di modelli, quindi tutti i post-traumatic stress disorder ci sono in seguito all'addestramento, possiamo dire, perché è un addestramento in cui vieni torturato, eccetera, eccetera. E quindi mi sono chiesto, ma perché, se lo sanno, quelli che sono continuano con questa, in questa... Io credo che una delle risposte, non è l'unica, è che è economico. Molto banale, è economico. Il modello comportamentista è economico, è semplicissimo, è economicissimo. Ed è riproducibile in modo semplice anche in serie dal gruppo primario. È un po' così come quello che è successo con le morti per uranio impoverito, no? Il nostro esercito che si preoccupa dei nostri ragazzi sempre, no? Da questa retorica che ha lasciato morire e continua a lasciare morire, evidentemente per le conseguenze che questo gesto ha avuto, militari che sono stati lasciati maneggiare oggetti con uranio impoverito, contaminandosi e quindi ammalandosi gravemente, semplicemente per risparmiare poche lire su guanti e maschere, con lo stesso principio, per risparmiare, secondo me, si adottano strumentazioni di tipo educativo, addestrativo, che non sono adeguate, ma perché, semplicemente perché costano poco. Per esempio, un modello psicologico che un po' conosco e che secondo me sarebbe molto più adeguato, ancorché questo, mi rendo conto che è stato utilizzato in ambito pacifista, quindi è quello fenomenologico esistenziale rogersiano dell'approccio centrato sulla persona, solo che chissà quanto costerebbe poter formare con un approccio rogersiano i militari. Invece, venendo alla richiesta di che è successo? Beh, i sociologi siamo una nicchia in Italia, non siamo, cioè, nel dibattito pubblico ci siamo davvero poco, e forse ce lo meritiamo anche, i sociologi accademici soprattutto. Però questa ricerca, almeno su di me, ha avuto degli effetti sulla carriera sicuramente, nel senso che la prima pubblicazione che ho fatto di questo discorso, la primissima, è del 2009, in un capitolo uscito in un libro della Erickson, quindi anche una casa editrice che mi piace, una buona casa editrice, però non ha avuto una grande eco, no, non è interessata a nessuno, sostanzialmente, quello che dicevo. Poi con un collega, un nostro amico comune, Pietro Saitta, decidiamo di pubblicare insieme quello stesso pezzo che avevo pubblicato, rivisto insieme con Pietro, e lo abbiamo pubblicato in una rivista scientifica dell'Università di Messina, i quaderni del CIRSDIG, mi sembra che si chiamasse, una rivista scientifica che però aveva la caratteristica, questo credo che sia stato rilevante per capire quello che è successo dopo, che era online ed era disponibile gratuitamente. Pubblichiamo questo articolo che si intitola La formazione di personalità fasciste nella folgore, non mi ricordo di preciso il titolo, però c'era il termine fascista nel titolo, questo è importante. L'articolo rimane online per circa un anno, anche lì nessuno ci ha dato peso. Poi a un certo punto esce un articolo sul giornale, allora era di Feltri, mi sembra, non mi ricordo, comunque il giornale, in cui appunto c'era il titolone, gli universitari dell'Università di Messina, i sociologi dell'Università di Messina infangano la folgore, è tutto buono, ho un'intervista di un sociologo che diceva che era un articolo che non aveva basi scientifiche, tutta una serie di cose. Però sostanzialmente la notizia viene fuori e immediatamente, e questo è stato interessante, si genera un attacco da parte di una serie di organizzazioni. I portatori principali della protesta erano un'organizzazione di ex militari della Folgore, Poi chiaramente, come uno si può immaginare, comunque come è stato, poi ci sono state tante altre associazioni che si sono aggregate, magari di orientamenti politici più dichiaratamente di destra o quant'altro. Questa protesta, che per me è stata molto interessante anche da un punto di vista scientifico, perché era motivata con un approccio molto scientista, quantitativo, credo che fosse un ingegnere quello che aveva elaborato, però era interessante proprio nel dibattito sul tema. Ebbe come effetto principale il fatto di far arrivare qualche centinaio di mail, perché era una piattaforma tipo change.org, di protesta contro la direzione della rivista, che erano tre sociologi ordinari, importanti, ora non me li ricordo bene i nomi perché per questo non li cito, ma si possono individuare chi erano. Insomma, sostanzialmente parlai con uno di loro che ricevette tutte queste mail, che era davvero terrorizzato. Erano i mail di protesta perché questo articolo infangava la Folgore. Insomma, la direzione della rivista decide di censurare di fatto l'articolo, lo toglie, lo elimina dalla presenza online, quindi lo ritira sostanzialmente, dichiarando, credo che una delle tante versioni che sono state dette era che ce l'eravamo autopubblicato o qualcosa del genere. E quindi vi potete immaginare, cioè, l'unica forma di, diciamo così, di legittimazione che avevamo in quel momento, noi eravamo dei ricercatori a livello più basso, diciamo, per capirci, della carriera universitaria, era quello dell'articolo scientifico. In quel momento siamo stati lasciati, diciamo così, in pasto a... Anche lì, devo dire che le email che ho ricevuto, i messaggi, sono stati utili per la mia autoetnografia, non ho parlato di questo, però ho raccolto molte informazioni in quel periodo, di vario tipo. Io mi ricordo un'email che porto sempre nel cuore di un papà, a parte le minacce, eccetera, quelle le lasciamo perdere, le diamo per scontate, diciamo quelle più carine, del papà di un capitano della Folgore, che mi diceva: lei, professore, quello che scrive sulla Folgore, sul fascismo della Folgore, sono tutte delle coglionate, perché mio figlio vota Renzi. Comunque, al di là di questo, gli effetti, per chiudere sulla il ritiro dell'articolo. Non ha fatto scani. Sì. Esatto. L'articolo quindi è stato ritirato. Siamo stati lasciati un po' da soli, e questo mi ha fatto anche capire come siamo messi come accademia, coinvolgimento, impegno politico, se volete, o comunque difesa della libertà e della scienza. Cioè, qua non c'è un problema di militanza o di altro. Quello che siamo riusciti a fare, che per me è stato interessante e ci ha protetto, e siamo riusciti quasi subito, diciamo un annetto e mezzo dopo, a pubblicare lo stesso articolo in una rivista importante americana. E la cosa interessante di questa pubblicazione, che ci ha dato protezione, diciamo così, autorevolezza scientifica, è che il direttore di quella rivista fece un'introduzione all'articolo, una premessa, raccontando della censura, della storia, quindi della censura. Mentre a livello, devo dire che a livello di carriera, senza entrare nel dettaglio, credo che qualche annetto, sia a me che a Pietro, qualche annetto questo articolo ce l'ha fatto perdere, diciamo, nella progressione di carriera, qualche anno sì. Bon, direi che per oggi può bastare. Ti ringraziamo molto e cercheremo di andare avanti su questi temi. Poi dopo, a parte, mettiamo fuori, anzi è già in streaming, poi verrà messo come podcast. Se ci dai gli estremi di quel libro che hai citato, che io non l'ho presente, quello su Manager Science e nazismo. Ah, certo.